speriamo sempre a partecipazioni molto più ampie, ma vogliamo giustificarci dicendo che siamo in questa bulimia delle iniziative politiche, degli incontri, poi c'è una vera infelicità nel scegliere le cose. C'era un'iniziativa, se non ricordo male, che si doveva fare domani, invece hanno deciso di anticiparlo stasera. Noi avevamo organizzato un interessantissimo, ma veramente straordinario convegno di altissimo livello, l'11 maggio, con il professor Crosignani e la dottoressa Camatini. Il caso vuole che ha coinciso poi invece col primo dibattito dei due che vanno al ballottaggio al Teatro Sociale di Como. C'era tutto pieno, più le tre prime file di palchi, no? E quindi io voglio dire, molto opportunamente, anche un po' intelligentemente, abbiamo detto a questi signori che siamo scusati, ma rinviamo a settembre. Nessuno pensi che non faremo quella roba là, eh? Sia ben chiaro, questa la faremo sicuramente a settembre-ottobre, anche così quando saranno tranquillizzati il sindaco, gli assessori, avremo degli effettivi. Però è una roba che abbiamo, no? Analogamente noi pensavamo a questa cosa, ma questa però era più urgente, anche perché in provincia si stanno decidendo delle cose. Se poi la chiusura doveva essere domani sera, due giorni fa invece di farlo due o tre giorni fa invece di farla stasera, quindi già non potevamo neanche a questo punto fare più nulla. Bene, dopodiché mi presento, io sono Marciano Michele, sono un merito sconosciuto, per questo bisogno un po' di presentarsi, perché sennò sono il presidente del circolo Legambiente di Como, dedicato ad Angelo Vassallo. Il vero personaggio è Angelo Vassallo, quel signore del 2010 che è stato assassinato col dovere di essere amante dell'ambiente e quant'altro. Per dovere di ospitalità, il dottor Rosario Lembo, che è del presidente nazionale del comitato per il contratto mondiale dell'acqua, e poi la nostra Edi Borgianni, che è responsabile provinciale del comitato per l'acqua, che è anche del direttivo dell'ambiente, quindi ormai ci sono dei conflitti di interesse, no, di questo genere. Quindi, ma poi come vedremo le due cose si legano molto bene. E comunque, prima di dare la parola a Edi, proprio due cose, ma brevissime, no? Anche perché siamo Legambiente, non soltanto il comitato dell'acqua. In questi mesi, alcuni mesi fa, in marzo, Legambiente regionale ha fatto un dossier sull'acqua in Lombardia e ci sono cifre e preoccupazioni che sono sicuramente drammatiche. Dico semplicemente in questo modo, che mancano dai bacini imbriferi di raccolta dell'acqua qualcosa come 300 milioni di metri cubi d'acqua all'oggi, e che nell'insieme dell'arco alpino, no? E quindi di neve, ghiacciai e via discorrendo, siamo a meno un miliardo di metri cubi di neve, ghiaccio, eccetera. Quindi c'è una preoccupazione notevolissima per tutto quanto riguarda. Non bastano le quattro piogge che ci sono state in questi tempi, che procurano magari qualche disastro, no? Per la loro concentrazione. Il tema dell'acqua è un tema parecchio più ampio, ma io voglio ricordare, visto che c'è qui anche qualche consigliere comunale dei comuni circostanti, no? È che intanto noi italiani siamo secondi al mondo per consumo di acqua, 350 litri negli Stati Uniti, noi veniamo subito dopo per 250 litri di consumo acqua al giorno, che è veramente una cifra spaventosa, a parte la perdita di elettricità. Ma siamo anche ottimi consumatori di acque minerali. Siamo primissimi in Europa e siamo terzi nel mondo per consumo di acqua minerale. Per cui io credo che la sfera dell'acqua, no, rappresenti un fatto non soltanto di carattere economico, ma anche un fatto di carattere culturale. Come vedete, questa sera avevo portato anche la mia di caraffa, no? dell'acqua da bere del rubinetto, perché è sicuramente la migliore acqua, però noi abbiamo questo grande problema. Quindi sulla questione della privatizzazione dell'acqua e tutto il tema di cui stasera Edi ci parlerà, però non trascuriamo il fatto che mentre alziamo le bandiere contro la privatizzazione dell'acqua, poi andiamo al supermercato con 192 litri di acqua mediamente di consumo per cittadino, che è un assurdo. L'ha trovato in qualche volantino dove in qualche comune si è fatta la casa dell'acqua, no? Con un risparmio di 300 euro a famiglia. 300 euro a famiglia. E quindi questo è, no, per dire come il quadro del vabbè, ma scusatemi, lo dico sempre io di scivolare. Ora, il Comitato Provinciale dell'Acqua è stato ricevuto il 16 aprile presso la provincia, ha esposto tutte le questioni, gli è stato assicurato un impegno della provincia al mantenimento della gestione dell'acqua da una società totalmente pubblica. Ci sono state delle osservazioni di cui parlerà sicuramente la nostra Edi, a te la parola. Allora, beh, come introduzione parliamo appunto della situazione dell'acqua in Lombardia. Adesso noi stiamo vedendo i livelli dell'acqua del nostro lago, ma anche di altri bacini quando ci muoviamo fuori da Como, abbastanza elevato, ma non vuole assolutamente dire nulla. Adesso abbiamo questi livelli per le piogge che ci sono state, ma il problema è quando poi in estate non ci saranno le piogge, cosa succede? Infatti ci sono state delle precipitazioni nel 2012 rispetto al 2011 che sono più o meno la metà di quelle del 2011, e questo porta che sulle montagne non ha nevicato in modo sufficiente, che è la nostra riserva estiva. Il problema non è tanto, poi come vedremo è anche lì, in situazioni come la nostra in cui poi dopo l'acqua viene distribuita attraverso il lago, ma dove i fiumi direttamente vengono utilizzati. In questo caso rimarranno, sarà veramente un problema per chi usufruisce di questo tipo di risorsa idrica. Ecco, quindi vediamo in questo grafico proprio l'Adda che ci riguarda, in rosso il 2011 e in 12 e in blu il 2012. Dunque, abbiamo questa disponibilità di acqua che è importantissima per la pianura, ma come acqua potabile. E oltretutto ci sono degli invasi regolati, che sono sia anche il lago di Como un invaso regolato perché abbiamo le chiuse, ma anche poi i bacini idroelettrici alpini, quindi sia i grandi laghi che i bacini idroelettrici. Vi sono appunto questi sbarramenti che regolano il livello delle acque. Nella gran parte, come di carenza idrica, gli effetti di questi bacini idroelettrici trovano compensazione nella regolazione degli emissari dei grandi laghi. Questo però porta anche, ci sono anche dei problemi. È vero che noi abbiamo in particolar modo il Lario, diventa una grande vasca in cui viene fatto questo accumulo di acqua, viene mantenuto un livello alto in modo da avere una riserva quando ci sono poche piogge o anche come in questo caso nevicato poco, il livello del lago viene tenuto alto in modo che poi, pur non avendo un apporto di altra risorsa idrica durante il periodo estivo, comunque c'è questa riserva del livello alto che viene rilasciato poi più che altro per gli usi dell'agricoltura. Voi capite perché il Comune di Como ha deciso di fare le paratie, eh? È chiaro? Allora, scusa. Sì, no, ma infatti il problema era questo, che abbiamo che i livelli sono quelli stabiliti nel Regio Decreto del 38. Per il problema della piazza Cavour però sono tenuti di solito per sicurezza sotto a un metro. Ovviamente se con le paratie, che poi abbiamo visto che in realtà è diventato un dato oggettivo, sono un grande disastro per la città di Como, non solo esteticamente, ma proprio per tutta una questione delle acque piovasche che non hanno più uno sfogo verso il lago, perché la chiusura non è solo dal lago verso la città, ma anche da tutto tutta l'acqua che si convoglia nella valle di Como e poi doveva sgorgare nel lago. Avendo messo questa chiusura ha portato delle scompensi nei livelli all'interno della città che portano, a parte gli odori che abbiamo sentito, spesso si sentono, ma anche proprio porta a questi dislivelli, quindi ci sono sia problemi per le fondamenta delle case che erano abituate a un certo livello dell'acqua, sia ci sono più allagamenti di prima nei garage e nelle cantine, e ci sono poi tutta una serie di conseguenze che possono essere anche più gravi. Allora, appunto, i grandi laghi della Lombardia sono un grande capitale di l'acqua, però deve essere gestito bene. Qui abbiamo dei dati. I grandi laghi in caduta libera sono indicati sia il volume regolato di metri cubi, vediamo che appunto viene regolata una grande quantità di acqua, e poi c'è il confronto tra il riempimento a metà marzo e il riempimento a marzo 2012, quindi la differenza. Poi appunto ci sono gli invasi artificiali che alimentano gli impianti di generazione idroelettrica. Come vedete sono in grado di invasare 671 milioni di metri cubi d'acqua. Inoltre ci sono poi altri bacini extraregionali, proprio stiamo analizzando la situazione della regione Lombardia. Nel periodo invernale hanno un minimo di volume in attesa appunto degli apporti che avverranno col disgelo, però ovviamente se nevica poco questi apporti saranno minimi. La situazione infatti diventa critica. La regolazione degli emissari dei grandi laghi, che come abbiamo visto appunto tra cui il lago di Como, invasato dunque, abbiamo un volume circa di 850 milioni di metri cubi, pari al 47% della capacità totale dell'invaso. Il problema è che però quest'anno, anziché avere i soliti 850 di media di milioni di metri cubi, ci sono 550 milioni di metri cubi, quindi il 31% della capacità dell'intero serbatoio. E questo è già un dato di per sé che dimostra la criticità della situazione. Questo il titolo mette in evidenza la situazione, no? Che poi abbiamo anche visto noi tranquillamente, abbiamo nevica di meno, la stagione più secca, però per in compenso quasi abbiamo questi eventi di alluvione, sì, sono delle catastrofici, proprio di precipitazioni estremamente abbondanti e improvvise. Questo è dovuto anche a un aumento di temperatura di 2 gradi che si è avuto nel XX secolo e come anche previsto un ulteriore aumento della temperatura. Quindi questo fa prevedere anche che questi cambiamenti climatici nelle Alpi si potrebbe avere una diminuzione delle precipitazioni dall'1 all'11%, ma soprattutto i periodi di siccità estivi potrebbero aumentare anche del 36%. Qui abbiamo altri dati. L'incremento della temperatura quindi influisce nell'arco alpino e la diminuzione delle precipitazioni nevose negli ultimi 50 anni hanno portato a una diminuzione dei ghiacciai fino al 50%. Quindi vediamo, manca tanto, non è che manchi poco per quanto riguarda i ghiacciai. Quindi vediamo che il manto nevoso contiene meno del 40% dell'acqua mediamente accumulato in questo periodo Quindi nel 2012 avremo una stagione con un deficit di oltre 1 miliardo di metri cubi d'acqua in forma di neve. Quindi avremo meno acqua disponibile al momento del disgelo. All'inizio dell'inverno, quindi questa scarsità di precipitazione che si è verificata a novembre 2011 spiega abbastanza questa carenza. Allora, questo porta anche a una fusione precoce dei ghiacciai, perché la neve che cade, oltre a essere la riserva nostra idrica per l'estate, per lo scioglimento delle nevi, protegge però anche i ghiacciai, fa in modo che il ghiacciaio non si sciolga, li fa come da coperta. E quindi nel periodo estivo si scioglie la neve, ma non si scioglie il ghiacciaio. Lo scioglimento del ghiacciaio, oltretutto, in un primo momento compensa la minor quantità di neve o di pioggia, perché abbiamo l'acqua che viene portata dal ghiacciaio che si sta sciogliendo, però questo poi nel tempo porta a un impoverimento. Abbiamo l'arretramento dei ghiacciai e verrà a mancare l'acqua. Quindi in un primo momento non si nota questo problema, si potrebbe anche non notare, però nel tempo questa carenza, questa criticità diventa molto evidente. In modo particolare, con riferimento all'Adda, arriva a coprire fino a un quarto della portata estiva del fiume all'ingresso dell'acqua del lago di Como. Quindi è abbastanza, sembra modesto, però appunto quello che stiamo dicendo va poi visto in prospettiva del tempo. Quindi prima avevamo, finora avevamo queste annate, poi appunto anche quello che veniva contestato, il periodo delle paratie, sì, quest'anno piove poco, ma l'anno prossimo pioverà di più, no? Quindi questa compensazione non sta più avvenendo, si sta comunque avendo in generale questa scarsità di precipitazioni invernali, il problema è più quello, e quindi si prevede questi problemi di scarsità idrica. Il problema è come intervenire, perché il problema è che gli interventi non hanno un effetto immediato, hanno un effetto nel tempo, quindi l'importante è intervenire immediatamente. Perché questa poi scarsità di acqua porta a due problemi, uno fisico e uno chimico. Quello fisico, l'acqua essendo di meno si riscalda, è più calda, quindi questo porta problemi anche alla fauna, come anche una riduzione, un'interruzione della portata. Da un punto di vista chimico porta dei problemi per quanto riguarda l'inquinamento, alla capacità di diluizione e di depurazione dell'acqua, perché ovviamente rimanendo più concentrata la percentuale di inquinamento aumenta. Quindi tutto ovviamente bisogna puntare, visto che la scarsità d'acqua è un dato oggettivo su cui se nevica di meno o se piove in un altro modo non possiamo fare nulla, dobbiamo intervenire sul problema dell'inquinamento, quindi il modo di cercare da un punto di vista di emergenza di disinquinare quindi meglio le nostre acque. Non possiamo più permetterci questa superficialità che abbiamo avuto finora, vediamo anche il lago di Como o i fiumi che non sono, che sono molto inquinati, anche con azioni di prevenzione attraverso programmi di ispezione. Noi stessi qui a Como viviamo delle situazioni di inquinamento dei fiumi di cui non si riesce mai a capire chi fa questi versamenti chimici, stiamo parlando visto la zona, non si riesce ancora a intervenire. Solo un inciso, il Seveso ha le sorgenti qui a Cavallasca, che è un'acqua purissima, magnifica, si va là col bicchiere e si vede. Quando arriva alla foce, il Seveso sappiamo che cos'è, è una tragedia dal punto di vista del pianeta. Per dire, scusami, sì, sì, no, come strada facendo si distrugge. Ma diventerà ancora più critica la situazione, certo. Perché avendo un minor apporto di acqua, l'inquinamento che viene immesso rimane il medesimo e quindi in realtà la percentuale aumenta. Quindi bisogna intervenire molto sugli scarichi industriali, sugli scarichi anche umani. Bisogna tener conto soprattutto per quanto riguarda i prelievi idroelettrici, È molto importante mantenere il rilascio del flusso minimo vitale, DMD, che è il flusso minimo per quanto riguarda proprio il fiume. Abbiamo il problema sull'Alto Lago, esiste un comitato, il comitato acque comasche, infatti. In un primo tempo poteva essere bloccato, utilizzato tutto il deflusso, tutto il fiume, tutta la capacità idrica del fiume per poter produrre elettricità. Poi è intervenuta una norma, dice no, almeno il 30% deve poter essere rilasciato. Poi abbiamo visto spesso che invece o perché si blocca il canale di deflusso o per altri motivi i fiumi rimangono in secca. Spesso capita questa cosa nell'Alto Lago. Quindi bisogna anche stare molto attenti a queste situazioni. E non si può assolutamente permettere che non venga più, perché poi esiste la norma, non venga adempiuta questa norma. Però questo diciamo sono i massimi sistemi, ma ognuno di noi anche nella propria vita può intervenire su questa situazione. Ed è poi qui ci ritroviamo col Comitato Acqua, col discorso culturale che fa sempre il Comitato Acqua, nel senso di utilizzare, di rispettare l'acqua come elemento. Di utilizzarlo il meno possibile, invece da noi c'è un eccesso, perché più acqua si usa, più acqua si inquina. Dopodiché c'è un problema di, anche se noi diciamo l'abbiamo, tanto la prendiamo come città, per esempio, la prendiamo dal lago, per quanto sia difficile che il lago rimanga in secca, anche se ogni tanto abbiamo avuto i problemi per l'alborello, poverino. Però anche se l'abbiamo non va utilizzata. Bisogna essere parsimoniosi proprio perché più ne usiamo, più inquiniamo, abbiamo poi problemi di depurazione, sono anche costi per la comunità che attualmente poi siamo abbastanza in crisi dal punto di vista economico, quindi comportamenti responsabili sono molto importanti. L'unica cosa appunto è la strategia dell'adattamento, sembra quasi una parola negativa, no? Bisogna adattarsi, però in questo caso adattarsi vuol dire tener conto della situazione, non vuol dire accettare passivamente. Abbiamo una situazione di precipitazione dell'acqua che si è modificata, ne dobbiamo tenere conto e in base a questo bisogna operare e comportarsi. Il problema molto forte è quello dell'agricoltura, perché l'acqua viene utilizzata principalmente proprio in agricoltura. Quindi ci sono dei modi per irrigare che utilizzano meno acqua, quindi va messo in discussione il modello agricolo attuale e anche poi programmare degli investimenti, dei nuovi interventi produttivi. Niente, questo poi come chiusura, la ripartizione degli usi dell'acqua in Lombardia appunto mette in evidenza come appunto civile poi l'acqua potabile è solo tra virgolette l'11%, ciò cioè non toglie che un comportamento responsabile anche per l'uso civile ha la sua influenza. Maria di Ugo all'81%. L'Irrigo è l'81%, quello è molto. Anche l'agricoltura, no, qui non c'è l'idroelettrico, non l'hanno messo. In Lombardia è prevalente. C'è la piscicoltura. Qui hanno messo la piscicoltura che è il 3%, l'industriale il 5%, non hanno messo l'idroelettrico che invece ha un'influenza. Prese su 60 si sta prendendo sì. Di cosa parlare di quell'agricoltura. Sì, più o meno si equivalgono tra agricoltura e idroelettrico. Sì, ne facciamo un po' una discussione di questo genere, se poi io penso, dispiace anche se intervengono loro, domande. No, va bene, no, adesso io ho finito. Ecco, no, finito. No, che sull'idroelettrico, volevo, visto che veniva citato, però attenzione, perché l'idroelettrico, io prendo, capto l'acqua qui, ma poi la rilascio qua sotto. Intanto mi passa in un tubo, si mette a girare la turbina, produce energia elettrica, ma l'acqua la restituisco. La cosa che poneva la Edi è che, attenzione però, l'acqua che va nella turbina no, deve almeno essere al massimo il 70%, il 30% dell'acqua deve defluire nel suo corso normale, perché altrimenti in tutto il tratto di captazione, e lì c'è un ovviamente dissesto geologico per quello che è il percorso del fiume. Però voglio dire, non è che possiamo mettere in contrapposizione l'idroelettrico, perché ci dà energia, l'acqua viene presa a 200 metri d'altezza, la rilascia a 100 metri d'altezza, mi produce energia elettrica, ma me la restituisce. Il vero problema è quel tratto lì, che, a cui deve essere garantito almeno il 30% di acqua lungo il percorso di suo vecchio fiume. Sì, beh, è sempre l'equilibrio, un utilizzo certo, responsabile, esatto. Che serve avere elettricità prodotta in modo che da un certo punto di vista inquina meno che in altre, esatto. Con altri metodi, nello stesso tempo non bisogna privare i fiumi del loro certo. Elemento vitale che è l'acqua, che serve per la comunità, per il territorio certo. E la fauna. Siccome il nostro è un territorio montano e a proposito di itticoltura, le trote, sono un pezzo di vita, le trote non vanno nella turbina, se ci vanno gli fanno la festa, le trote devono avere il diritto di risalire i torrenti, devono avere il diritto almeno di quel 30% di risalire i torrenti. Però una cosa, scusate, poi do la parola al dottor Lembo. Noi abbiamo... Come? Posso intervenire un attimo? Certo, certo. Lei delle notizie molto belle utili sullo stato delle acque superficiali e giustamente perché siamo a Como e noi a Como prendiamo l'acqua del lago. Però parlando di acqua potabile e parlando, allargandoci un po' a tutta la provincia e magari anche poi la Lombardia, ebbene penso approfondire anche il discorso delle acque di falda. E anche perché è bene ricordarsi che Como negli anni '80 ha deciso di prelevare l'acqua dal lago perché le fonti di approvvigionamento precedenti che erano di falda erano inquinate. Noi avevamo tutta una serie di pozzi sulla piana di Lazzago che davano tantissima acqua, ma erano inquinati a parte ferrobatteri poi nelle tubature. Ma soprattutto c'era un inquinamento chimico anche di origine industriale, inquinamento chimico che è rimasto in queste falde, in questa falda importante che pesca intorno ai 100 metri, tra i 70 e i 150 metri nella parte più pianeggiante, quindi Grandate, Cassina Rizzardi, Lurate Caciglio, Villa Guardia, hanno tutti pozzi inquinati da, in genere da solventi clorurati, da trilina, per cloroetilene, che erano le sostanze utilizzate nelle tintostamperie. Nella zona di Erba abbiamo i pozzi inquinati da cromo per le galvaniche che è presente. Ora, Como ha deciso di prendere l'acqua dal lago e ha risolto il problema, ha messo un bel impianto. Negli altri comuni hanno speso, stanno spendendo ancora tuttora, cronaca di tutti i giorni, che si è analizzato nei giorni scorsi, spendono un sacco di soldi per depurare l'acqua che è ancora inquinata. Tra l'altro in tutti questi anni, stiamo parlando di inquinamento nato 30 anni fa, 40 anni fa, che continua ancora adesso, i soldi li hanno tutti investiti nella potabilizzazione e non mi risulta invece che li abbiano investiti nella ricerca del suolo inquinato per bonificarlo. Questo anche per motivi economico-commerciali. Quindi c'è un problema di capire in provincia di Como qual è lo stato di questa falda, anche per poterla magari recuperare tra qualche anno, se l'inquinamento piano piano si risolve da solo oppure se riusciamo a intervenire con costi minori per il disinquinamento. Poi c'è un'altra cosa che io conosco poco, le mie informazioni risalgono al fatto di aver frequentato ambienti di geologi, però non so adesso com'è la situazione, però risulta che al di sotto di questa falda, che come dicevo prima pesca sui 100-150 metri, c'è uno strato di argilla, quindi di suolo protetto, e poi c'è un acquifero profondo. L'acquifero profondo che è molto ricco, tanto è vero, c'è il consiglio comunale di Calorago, c'è un'azienda nel comune di Calorago che la vista lunga e preleva l'acqua in questo acquifero profondo, non so, penso a 700-800 metri, non so quanto, e la rivende poi in tutta Italia. Quindi c'è qualcuno che si è appropriato già di una falda. Questo è. Noi quando parliamo di acqua minerale pensiamo all'acqua di montagna, all'acqua. Invece qui abbiamo un'azienda che ha perforato e è andata nella falda profonda che dovrebbe essere pubblica e rivende l'acqua in tutta Italia. Da sempre. Prima addirittura mi risulta che la pescava anche nella prima fase, sì, quella di 150 metri, poi ha trovato la trialina e è scesa, è andato giù. Ecco, quindi queste cose però è difficile che siano scritte sulla stampa quotidiana, forse noi, anche noi come Comitato Acqua, come Lega Ambiente, dovremmo... Diciamo, visto come sta andando stasera, però, sarebbe no, là. Allora vediamo invece come una serata di inizio e organizzare qualcosa perché secondo me mettere insieme questi due argomenti, per quello che ho messo insieme, è molto importante, perché sono legati. No, un argomento così delicato pone il problema della gestione, deve essere gestito bene. E dove la prendiamo? A questo punto diventa una questione anche pratica, proprio esporre in modo pratico i problemi. No? Ma a proposito, mi perdoni, dottor Lembo, no? Proprio per i comuni, sulla questione dei comuni e il PCT, noi siamo stati invitati all'assemblea del comune di Cadorago per la nascita del PCT. Io ho scritto a Michele Roda, no? Guarda, per essere di questa roba vai a vedere, eccetera, eccetera. No? Però questo per dire, quando dicevo che noi siamo secondi al mondo o terzi al mondo per consumo di acqua, 250 litri di acqua al giorno, va bene, per individuo, perché noi prendiamo l'acqua con tutte le fatiche, gli sprechi, i costi della potabilizzazione e quindi la captazione, la potabilizzazione, lo squilibrio della temperatura e poi lo buttiamo nel gabinetto. Questo è no? Uno dei tanti problemi, va bene? E allora la questione dei comuni e dei piccoli comuni è una questione fondamentale, anche rispetto semplicemente alla banalità. Io ho fatto queste cose in alcuni comuni del Triangolo Lariano, ma è pensabile che lei, signor Sindaco, no, incentivi l'acquisto della cassetta a due bottoni, no, per chi ce l'ha un bottone solo? Perché lei butta una cicca nel water, poi schiaccia il bottone, se ne va e lì sono 11, la follia, oppure la parla automobile e via discorrendo. No? È un problema molto complesso, molto ampio, che è anche un problema di carattere culturale. Sono pienamente d'accordo che questo è uno dei luoghi e degli impegni di Lega Ambiente. Ma l'altra cosa, quando tu ricordavi la storia, meno neve, eccetera, io quando avevo i bambini piccoli li portavo normalmente al Pian del Tivano a sciare. Del Pian del Tivano non c'è più neve ormai da anni. Qual è la risposta? Prendiamo i cannoni, preleviamo l'acqua e spariamo la neve. Così no? Peggioriamo la situazione. Esattamente come ha fatto il comune di Como, no? Adesso ma alziamo, mettiamo le paratie così prendiamo più acqua d'inverno e la rivendiamo d'estate, queste follie, no? Di carattere. Ecco, questo per tornare a quanto sia importante il ruolo, il rapporto con i comuni e con i luoghi dell'amministrazione. Mi perdoni, dottor Lembo, a lei la parola. Quello che è emerso dal contributo che ci ha dato, mi pare che avete ripreso anche voi, è che l'acqua è una risorsa sempre più scarsa. E l'altra, la qualità dell'acqua. Qual è la conseguenza di una risorsa che diventa scarsa, rara? Che assume un valore economico. Tutto ciò che è raro assume un valore economico. Ed ecco che l'acqua sta assumendo sempre di più, nel corso degli ultimi 10 anni ha assunto questa caratteristica, che da un bene di madre natura, un bene comune, che fa parte del ciclo naturale della vita del pianeta Terra, sta diventando un bene a valenza economica. Tutto ciò che è raro bisogna pagarlo di più. Allora, c'è un primo rapporto dell'uomo rispetto alla natura, che mi pare stato messo in evidenza. La Lombardia è sempre caratterizzata per una delle regioni più ricche d'acqua. Io vengo da Milano, dove praticamente risorgeva tutta l'acqua, zampilla, nelle varie parti della città, zona San Siro. Mio suocero praticamente che era un milanese di diverse generazioni, così come appunto altri cittadini di Milano, dicevano che si andava a fare appunto a Tinibano, a San Siro, dove oggi c'è praticamente appunto lo stadio di San Siro. C'erano appunto anche sorgenti, sorgive d'acqua che zampillavano e formavano dei piccoli laghetti dove i ragazzi potevano andarci a sguazzarsi e a divertirsi. Oggi appunto anche a Milano l'acqua non la prelevi più a 70-100 metri, devi andare molto di più, perché quell'acqua è inquinata. Anche se poi nella metropolitana milanese piove dentro, non appena praticamente c'è una piovosità più intensa appunto un attimo delle norme appunto un attimo di quel periodo, di quella appunto stagione. Quindi l'acqua diventa una risorsa sempre più rara, ed oltre al rapporto tra l'uomo proveniente appunto dall'ambiente, c'è appunto da prendere in considerazione il secondo elemento praticamente, cioè l'aspetto gestionale. Chi deve gestire una risorsa che è sempre più rara? Il mercato o i cittadini? Prima si parlava dei comuni. Cosa sono i comuni? È l'insieme dei cittadini che vivono su un determinato territorio e che hanno appunto avuto a disposizione da varia natura, prima li chiamavate appunto alcuni di questi appunto paesi, il Grado Lago, appunto di sentito qua. A chi appartiene quell'acqua? Al mercato, all'azienda che accennavi tu, che fa business appunto un attimo senza magari chiedere l'autorizzazione, o pagando appunto una convenzione a prezzi praticamente irrisori, o un bene patrimonio di quella comunità che le precedenti generazioni hanno preservato, arrivando l'acqua a 70, 100, perché lo sapevano magari che c'era questa falda acquifera profonda, però hanno pensato di conservare quella risorsa per le future generazioni. E invece qualche di un altro se ne sta appropriando, ma non a vantaggio della comunità, che sì, magari darà qualche posto di lavoro. Però li vende quell'acqua 800 volte di più il prezzo della concessione che magari paga il comune. Questo è il secondo rapporto appunto sul quale praticamente dobbiamo confrontarci, il rapporto che appunto il movimento referendario in Italia contro la comunità dell'acqua, noi siamo nati appunto nel marzo del 2000 per contrastare, come veniva ricordato, una tendenza che allora il secondo forum mondiale dell'acqua aveva lanciato nella conferenza appunto attivo dell'AIA. L'acqua non è un diritto, l'acqua non è un bene comune, l'acqua è un bisogno, l'acqua è una merce. E da allora, che in assenza di un'autorità mondiale, appunto di una serie di regole appunto fissate dalla comunità internazionale, che i privati hanno avuto la forza e il coraggio di sostituirsi alla comunità internazionale degli stati, e oggi sono i privati che ancora oggi fissano le regole con cui si governa un bene che non soltanto appartiene alle comunità locali, ma che rappresenta la sacralità della vita di ogni essere vivente del pianeta Terra. Ed è questo il paradosso, che il mercato si è appropriato della gestione di queste importanti risorse e i cittadini hanno sempre fatto marcia indietro, hanno sempre delegato di più al mercato la salute del proprio benessere. Quando uno va al supermercato e affida la salute del proprio corpo alla prima bottiglia di acqua minerale, che è una pubblicità martellante in televisione, le dice essere la migliore, o per fare la pipì, o perché praticamente ti rende più bella, o perché ti fa trovare il compagno appunto più facilmente. Questo praticamente è il paradosso. Tu affidi la tua salute del tuo corpo senza sapere se quell'acqua ha la quantità di sali o di caratteristiche appropriate per il tuo fisico, per il tuo benessere, e ti fidi di un messaggio di comunicazione di massa. Questa è la mercificazione dell'acqua. Io pretenderei che l'acqua del rubinetto che un tonatino bevo deve essere garantita di buona qualità. E questa la chiede al sindaco, che è il rappresentante eletto da quella comunità a difendere i beni di quel territorio. E non a fare mercato. Qui siamo al paradosso di che cosa sono i sindaci e le amministrazioni locali, che oggi, anziché voler gestire i beni comuni e fare gli interessi comuni, diventano gli azionisti che gestiscono le società per azioni alle quali hanno affidato la gestione dei servizi pubblici locali. Il paradigma dell'acqua vi porta appunto a questa appunto serie, diciamo così, appunto di analisi. E questo è stato il grande messaggio che appunto la campagna, diciamo, referendaria ha introdotto. 27 milioni di cittadini italiani hanno appunto affermato in Italia due principi: che l'acqua non è una merce e che sull'acqua non si può fare profitto. Quindi vi ricordate, è passato più di un anno appunto da quando appunto nel 2011, in luglio, è stato il grande appunto voto referendario il primo voto consistente referendario dopo 15 anni che un referendum non raggiungeva appunto un successo. Non soltanto sull'acqua, ma su una serie di altri servizi pubblici locali, i trasporti, appunto, i rifiuti. Il messaggio uscito dalla società civile è stato molto chiaro. Oggi, praticamente a distanza di un anno appunto, da quel voto, dobbiamo dire che praticamente i governi che si sono succeduti non hanno minimamente rispettato questa volontà popolare. Che cosa sarebbe stata appunto la conseguenza di questa volontà popolare, appunto, perché il referendum può essere di carattere soltanto abrogativo, non di tipo propositivo? Che il governo avrebbe dovuto emanare una legge, una nuova legge quadro, disciplinando appunto le modalità di gestione appunto di accesso a questa importante risorsa, affermando il principio che l'acqua non è una merce, quindi praticamente non deve essere gestita dal mercato, e soprattutto eliminando quella seconda appunto richiesta che era stata avallata dal quesito referendario, che sull'acqua non si fa profitto, cioè che chi gestisce l'acqua non può avere una rendita garantita del 7%. Se voi affidate i vostri risparmi in banca, chi è che vi garantisce in questo momento un tasso garantito netto del 7%? E perché chi mi vende l'acqua o mi fornisce l'acqua di rubinetto, che è per benessere della mia salute individuale e collettiva, deve avere appunto la possibilità di guadagnare un profitto netto del 7%, indipendentemente dalla qualità dell'acqua che mi eroga o del tipo di investimento che fa per salvaguardare quelle risorse per le future generazioni? Ebbene, appunto, questi due aspettative di carattere popolare sono state tutt'oggi praticamente disingannate, cioè non appunto temperate. Il governo non ha praticamente mantenuto, non ha approvato una nuova legge quadro appunto anche in Italia, non ha ancora, a distanza oggi appunto di un anno, dal luglio del 2011, quando è stata appunto pubblicata la validità dei quesiti referendari nella Gazzetta Ufficiale, quindi già da quel momento appunto andava ridotta, eliminata questo 7% dalla tariffa appunto che ciascuno di noi paga appunto sull'acqua, non è stata data attuazione appunto a questo mandato, a questa richiesta di carattere popolare. Qui si pone un problema di democrazia. Che tipi di governo, che tipi praticamente di classe politica abbiamo nel nostro praticamente appunto paese? Ma questo ci porterebbe appunto, diciamo, lontano una riflessione appunto di questo genere. La riflessione che appunto mi pare stasera, cioè dovremmo un po' socializzare, vedere insieme qual è appunto quindi la fotografia dello scenario post referendario, un po' ve l'ho praticamente appunto accennata. L'acqua praticamente si trova in una situazione, in un limbo direi, in una situazione appunto di indeterminazione. Il governo appunto ha osato contraddire i due quesiti referendari per due servizi pubblici, per gli altri due servizi pubblici locali. Sapete che sui trasporti e sui rifiuti, con appunto il decreto inserito nella finanziaria, questi due servizi praticamente sono stati nuovamente ricollocati appunto in delega appunto al mercato. E oggi appunto gli enti locali si trovano appunto nella difficoltà a poter mantenere una gestione diretta di questi servizi. Di fronte alla pressione esercitata invece appunto dal movimento referendario, dal comitato praticamente che ha sostenuto il referendum, l'acqua è stata esclusa dal provvedimento Salva Italia e quindi oggi si trova in questa situazione di limbo, una situazione indeterminata che da un lato concede agli enti locali la possibilità di scegliere le modalità di affidamento, dall'altro col patto di stabilità e con una serie di altri vincoli che gli ha posto, li pone nelle impossibilità di poter continuare a fare una gestione diretta di questi beni. Io non so, dico, se vi interessa potremmo approfondire tutti gli aspetti praticamente appunto tecnici, diciamo appunto ecco, del quadro legislativo che attualmente praticamente caratterizza il nostro scenario. Di fatto praticamente il successo referendario ha creato questo vuoto legislativo in Italia. Quindi anche la stessa legge Galli, che era la prima legge quadro, che aveva appunto caratterizzato la gestione del nostro servizio, introducendo il concetto di un servizio industriale. Quindi un servizio praticamente che andava regolamentato secondo le regole di carattere economico, sulle quali si è inserito poi appunto l'applicazione del principio del full recovery cost. Chi consuma l'acqua deve pagare tutti i costi per accedere all'acqua, ivi compresa la remunerazione del capitale, cioè quel famoso 7%. Dove anche qui bisogna fare appunto una distinzione. Quando si parla di remunerazione o di rendita del capitale, non è che si intende i soldi che prendi in banca per fare gli investimenti, per garantire la potabilizzazione, per garantire la depurazione dell'acqua, perché quello è il tasso di interesse che paga la banca e fa parte del piano di ammortamento. Ciò che è stato introdotto come remunerazione del capitale è che il volume di investimenti che un gestore fa prendendo i soldi in banca, non intendoci i soldi suoi, su quello ci calcola un 7% ed è quella la rendita che si porta a casa per denaro non suo, su cui non rischia nulla, perché chi glielo paga è ciascuno di noi con la tariffa. Non so se vi è chiaro il concetto. A prescindere da, è garantito il 7%. Esatto. A prescindere dalla natura dove vengono i soldi, esatto. Perché dovrebbero essere i tuoi imprenditori, se vuoi rischiare praticamente, e a prescindere praticamente dalla copertura dei cosiddetti costi e ricavi, cioè da quello che praticamente è il costo di gestione delle proprie. In questo senso è una plusvalenza a tutti gli effetti ed è un profitto illecito. Assolutamente. Ed è questo che con il secondo quesito referendario abbiamo abrogato. Ma da luglio dello scorso anno le tariffe dell'acqua non sono diminuite, perché nessuno ha dato attuazione appunto a questo provvedimento. Nonostante la Corte appunto costituzionale, nel momento in cui appunto sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale i risultati referendari, ha detto questo, secondo questo principio dell'abrogazione del 7% è immediatamente praticabile, perché non è detto che per gestire un servizio pubblico bisogna fare profitto, costi uguali a ricavi. Quindi ci troviamo in questa situazione appunto di limbo in cui praticamente che cosa introduce il quadro di riferimento legislativo in Italia attualmente vigente? È quello della normativa europea. Normativa europea che però appunto classifica l'acqua come un servizio di rilevanza economica, cioè un servizio di interesse generale, ma di rilevanza appunto economica. Come tale praticamente appunto sta sul mercato. Le modalità di affidamento della gestione, appunto, secondo un servizio di interesse generale dell'Unione Europea, sono sostanzialmente, quindi, punto 3. Dal momento che questo è un bene che sta sul mercato, c'è in primo luogo la gara, perché praticamente devi rispondere ai criteri della concorrenza. C'è poi la possibilità di, appunto, fare una gestione, appunto, antinomista pubblico-privato, cioè di chiamare accanto al pubblico un soggetto privato per una quota percentuale, appunto, che concorre, appunto, alla gestione di questo servizio. Ma la stessa, appunto, l'Unione Europea riconosce la possibilità da parte dei comuni, degli enti locali, appunto, di alcuni soggetti, o di autoprodurre, appunto, il servizio, o di gestirlo, appunto, in modo, con modalità, appunto, nativa diretta, cioè attraverso un ente che è di diretta emanazione o sotto il controllo praticamente dell'ente, la cosiddetta gestione in-house, che era quella che aveva già caratterizzato praticamente una modalità di gestione degli enti locali e dei servizi pubblici locali. Dai rifiuti, molti comuni gestiscono, appunto, attinenti rifiuti da soli o in consorzio con altri comuni. Molti comuni gestiscono, appunto, attinenti acquedotti attraverso, appunto, attinenti delle società da loro totalmente controllate. Cioè, vi ricordo che praticamente una volta la caratteristica tipica della gestione dell'Italia dal Novecento in poi era quella, appunto, attinenti che questi beni, i servizi, cioè più direttamente collegati ai cittadini, come l'acqua, come, appunto, attinenti con il proprio rifiuti, come i trasporti, appunto, attinenti urbani, erano considerati dei servizi direttamente gestiti dalle nostre comunità. Pensate che probabilmente Giolitti aveva nazionalizzato l'acqua e l'energia elettrica, e questo, appunto, rese possibile che a Torino nascesse la Fiat. Se non ci fosse stata la nazionalizzazione dell'acqua e l'energia elettrica e la Fiat doveva comprare energia ed acqua dal mercato, un bene che ha valenza economica, più ne consumi, più la paghi. Quindi non avrebbe mai potuto in Italia nascere, appunto, a Torino la grande industria automobilistica italiana. Quindi un ministro liberale arrivò alla nazionalizzazione, appunto, di alcuni servizi che dovevano essere garantiti attraverso delle tariffe, diciamo, a valenza sociale o, appunto, tariffe, appunto, controllate, per poter garantire il nostro modello di sviluppo e garantire l'accesso a servizi essenziali come l'acqua, praticamente, e l'energia. Oggi praticamente ci troviamo in un 21° secolo in cui invece praticamente la nostra classe politica affida al mercato la gestione di beni importanti, praticamente di servizi importanti di prossimità, come questo praticamente, appunto, dell'acqua, o come quello praticamente dei trasporti locali. L'Unione Europea quindi dà queste tre praticamente modalità che costituiscono i parametri, appunto, attualmente applicabili di riferimento praticamente, appunto, in Italia. Vi ho ricordato prima, però, appunto, con il decreto Salva Italia. Prima c'era già stato il provvedimento analogo adottato, appunto, dal governo Monti e dal governo Stato Berlusconi, ma poi con il referendum praticamente era stato eliminato. Ebbene, invece è stato reintrodotto la possibilità per servizi pubblici locali, per i rifiuti, di, appunto, un attimo ridurre le modalità, sono state introdotte delle restrizioni rispetto alla possibilità da parte dei comuni di continuare a gestire questi servizi in house, cioè attraverso delle società totalmente controllate. È rimasta esclusa praticamente, appunto, l'acqua, però, appunto, come accennavo, con il patto di stabilità e con una serie, appunto, con gli altri, diciamo, provvedimenti, si sta rendendo impossibile sempre di più da parte dei comuni la possibilità di continuare a gestire direttamente, appunto, l'acqua attraverso delle società totalmente pubbliche, perché si pone il problema degli investimenti, quindi legato al concetto che prima vi ho accennato del patto di stabilità, perché praticamente ci sono una serie, appunto, di deleghe che il governo ha dato alle regioni di procedere alla riorganizzazione degli ambiti territoriali. Gli ambiti territoriali è la dimensione, diciamo, industriale, diciamo così, o territoriale, sulla quale va organizzato un servizio pubblico locale, siano essi rifiuti, in questo caso ovviamente nel nostro parliamo brevemente, appunto, di acqua. Questa delega, appunto, conferita alle regioni di riorganizzare, prima era entro il 31 dicembre dello scorso anno, adesso entro il 31 dicembre praticamente del 2012, di quest'anno, la riorganizzazione dei servizi pubblici locali su dimensione territoriale, era già stata anticipata dalla nostra regione. Parliamo, appunto, del nostro, scendiamo un po' più a casa nostra e poi, appunto, magari concludiamo questa riflessione lasciando spazio magari, appunto, a vostre richieste, appunto, di precisazioni di alcuni di questi concetti che ho cercato, diciamo così, di richiamarvi brevemente questa sera. Ebbene, la nostra regione, praticamente la regione Lombardia, ha una caratteristica di voler sempre praticamente essere il primo un po' della classe, e quindi in questo senso aveva già anticipato un po' quelli che erano alcuni dei provvedimenti del governo Berlusconi. A partire dal 2006 la nostra, praticamente, appunto, il nostro servizio idrico in Lombardia è classificato come un servizio di rilevanza economica, come tale sta sul mercato. Il modello praticamente che la nostra regione ha scelto praticamente, quindi, già dal 2006 era quello di affidare la gestione di questa importante risorsa a gara oppure apertura ai privati. Non solo, ma la nostra regione ha introdotto un altro concetto, che siccome l'acqua è una risorsa rara di valore economico, allora la gestione di questa importante risorsa la si affida ad una società patrimoniale. E quindi, appunto, abbiamo inventato, rispetto al ciclo normale dell'acqua, le società patrimoniali che hanno la proprietà dell'acqua, cioè la proprietà dell'acqua delle sorgenti o la proprietà dell'acqua che viene captata dal sottosuolo. E questa proprietà, siccome un bene demaniale, appartiene ai comuni. E per dargli un valore cosa facciamo? Facciamo praticamente che tutti i comuni che hanno in comune quel determinato bacino idrico, quella quantità del puntatino di risorsa, hanno una società patrimoniale. E danno un valore praticamente al volume d'acqua praticamente appunto che è contenuto in quel territorio. Dopodiché, puntatino, mentre il servizio idrico ovviamente a livello nazionale si classifica puntatino per la captazione, l'adduzione, appunto la depurazione, da noi in Lombardia abbiamo introdotto anche l'erogazione. Che cosa si intendeva puntatino per erogazione? Mentre quindi proprietà e gestione restavano in capo ovviamente appunto al comune che devono fare gli investimenti, la nostra appunto, legislazione appunto aveva introdotto il soggetto erogatore, che era colui che appunto gestiva la fase terminale del ciclo idrico, cioè il contatore, dove si fattura l'acqua. La Corte Costituzionale ha dichiarato appunto incostituzionale la possibilità di scegliere in tre livelli appunto la gestione del ciclo dell'acqua. Perché dice, non è possibile che uno soltanto fatturi, indipendentemente dalla qualità dell'acqua e dagli investimenti che fa nella fase di gestione di salvaguardia. Cioè il ciclo deve essere salvaguardato e gestito nella sua complessità. Chi fa la gestione deve fare appunto anche appunto la fatturazione. E quindi di recente appunto ha dichiarato anticostituzionale la costituzione di tutte le società per azioni di carattere patrimoniale costituite appunto un attimo sul nostro, diciamo, territorio. E quindi questa nostra legge regionale, che si caratterizzava per dire che l'acqua è un servizio di rilevanza economica, che deve essere appunto affidata al mercato e che praticamente la proprietà resta pubblica ma resta in mano a una società per azioni, e la motivazione con cui era stato introdotto questo concetto della società patrimoniale è che io potevo andare così in banca e gli dicevo, io sono proprietario di 1 milione di metri cubi d'acqua. Questo ha un valore sul mercato di 1 miliardo, tu dammi un filo pari praticamente al valore d'acqua che questa società di capitale capitalizza l'acqua, ha praticamente appunto un attimo in dotazione. E quindi prendeva i soldi in questo modo per fare gli investimenti per poi appunto fare la depurazione e tutto il trattamento appunto delle acque. Capite a che livello siamo arrivati? Cioè, quindi non soltanto un bene naturale come l'acqua diventa monetarizzato, cioè nel senso chi accede all'acqua paga tutti i costi, ma diventa un valore capitale, sul quale poi si sono costituiti i fondi di investimento speculativi, perché sapete che ci sono i fondi speculativi sull'acqua, che gli garantiscono anche rendimenti del 15-20%. E oggi sono tra i fondi praticamente, come tutti i fondi praticamente che investono su beni naturali, sulla terra, che vengono espropriati sempre più dai cittadini e dalle comunità e appunto diventano un patrimonio appunto di alcune società, sono oggetto praticamente di speculazione, perché più aumenta la popolazione del pianeta Terra, più aumenta la domanda d'acqua, più c'è qualcuno che sarà disposto a pagare un prezzo sempre più alto dell'acqua per accedere ad acqua di buona qualità. E allora io, se voi mi date i vostri risparmi, io vi garantisco il 20% di remunerazione, perché tanto ci sarà sempre bisogno qualcuno che mi prenderà in prestito i capitali che ho per fare degli investimenti, per portare l'acqua da qualche parte attraverso l'acquedotto e poi farsi pagare appunto una tariffa elevata appunto dell'acqua. Quindi non c'è soltanto un problema di qualità dell'acqua e di quanta acqua abbiamo a disposizione, ma quanto io o i nostri figli dovranno pagare per accedere a quell'acqua. E più siamo poveri, più andiamo in povertà, più andiamo in crisi, più quell'acqua che probabilmente riprenderà a mantenere la falda, qualcuno la pagherà a prezzi sempre più schizofrenici, elevati. E scusate, voi potete fare a meno della pasta, forse del vino, ma di bere un tot di litri d'acqua al giorno non ne potete fare a meno, perché sennò morite per disidratazione. Ma capite quali sono le conseguenze di affidare l'acqua di Como? A chi la affidiamo l'acqua di Como? Al mercato? Alla multinazionale? Ai fondi speculativi? Ora dobbiamo affidare al sindaco che magari leggete la prossima settimana. Chi vi deve garantire l'accesso all'acqua alle future generazioni? E l'acqua è un bisogno che voi pagate in funzione del potere d'acquisto che avete nel portafoglio, o un diritto che deve essere garantito come la salute, come l'istruzione? Almeno un minimo quantitativo di un tot di litri d'acqua al giorno. Ecco, questo è lo scenario praticamente, diciamo così, appunto un attimo in cui ci troviamo. Anche noi siamo stati oggetto praticamente come comitato di una appunto audizione la scorsa settimana alla regione praticamente appunto Lombardia. Ebbene, nonostante un rilievo di costituzionalità praticamente della Corte Costituzionale che ha detto che le società patrimoniali non devono più esistere, nonostante la legge regionale faccia ancora riferimento all'articolo 23 che è stato abrogato praticamente da un referendum, la regione si rifiuta ancora di adeguare la nostra legge regionale a due principi obbligatori, perché praticamente uno è una parte anticostituzionale, l'altro praticamente non si può più fare riferimento all'articolo 23, quindi all'obbligo appunto di gara come modalità appunto di gestione del servizio idrico praticamente appunto di Lombardia. Anche da noi in questa audizione che cosa è emerso? Alcune considerazioni praticamente un po' da parte della classe politica, analoga un po' a quelle che avete, sono state presentate prima nella prima serata. La preoccupazione appunto sono due: uno la scarsità dell'acqua, due la qualità dell'acqua, terzo praticamente tutte le penalità, appunto, tutte le sanzioni che dovrà pagare la Lombardia, vari comuni della Lombardia, per la pessima qualità dell'acqua, in funzione appunto Antino, della direttiva quadro del 2000, a cui la nostra regione non ha dato ancora appunto Antino attuazione, non solo, soltanto l'acqua di superficie, ma come accennavi anche tu, l'acqua praticamente appunto del sottosuolo. Cioè, il nostro paese ha sottoscritto la direttiva quadro del 2000, nel 2012 praticamente ci sono le prime verifiche, nel 2015 questa direttiva quadro va praticamente a conclusione e quindi praticamente gli stati dovranno presentare il bilancio non soltanto appunto della portata minima dei fiumi, e lì si inserisce tutto il discorso praticamente appunto di quanta acqua diamo praticamente per produrre energia idroelettrica. Molti dei nostri fiumi qua nel Veneto ormai o sono inquinati o praticamente appunto a valle non ci arriva quasi più nulla, compreso appunto i fiumi che attraversano la città di Milano. Non soltanto il Lambro, l'Olona, tutta una serie di lì. E guardate lo stato praticamente appunto del Po, ma appunto la qualità della nostra acqua è praticamente appunto un attimo peggiora sempre praticamente appunto di più. C'è questa preoccupazione quindi da parte della classe politica più su questo versante, si preoccupano chi dovrà pagare queste sanzioni, i comuni o praticamente di fatto la regione che dovrebbe garantire questo livello appunto di qualità. E ancora dalla classe politica c'è meno appunto attenzione appunto a questo aspetto invece di carattere gestionale, chi deve gestire l'acqua? Chi salvaguarderà praticamente l'acqua praticamente del nostro territorio? E qui si inseriscono appunto una serie di campagne che anche il Forum Italiano dei Venti dell'Acqua ha lanciato praticamente e che costituiscono un po' le sfide attuali. Vedete, nella nostra classe politica sta prevalendo quel concetto di gestione industriale che aveva introdotto Galli. L'orientamento delle classi politiche di destra e di sinistra è voler appunto fare anche in Italia le grandi multinazionali dell'acqua. Ma non le multinazionali dell'acqua, le multi-utility, cioè la gestione di tutti i servizi pubblici locali. E come si fa questo? Non attraverso praticamente appunto, come dire, la valorizzazione degli enti locali, il coinvolgimento appunto dei cittadini, no, attraverso dei processi di fusione o appunto un attimo di acquisizione di pacchetti, cioè quindi attraverso processi di finanziarizzazione. E quindi qui il Comune di Milano ha le sue grandi responsabilità con A2A, sapete che gestisce praticamente il discorso poi dell'energia elettrica, che si fusa praticamente appunto un attimo. La fusione appunto tra Milano, tra azienda elettrica milanese, appunto Antino Brescia, acqua, depurazione, rifiuti, ecco qua, il grande business appunto Antino si fa intorno appunto a queste, diciamo così, appunto dimensioni, che sono però quelle che praticamente poi chiamano anche responsabilità ciascuno di noi anche come cittadini. Come si fa a fare la raccolta differenziata? Come si fa appunto Antino ad attivare dei processi di responsabilizzazione dei cittadini del territorio rispetto a beni comuni, se invece ciò che prevale è una gestione di carattere industriale? Più consumi ci sono, più inceneritori faccio, più praticamente appunto ne brucio, più praticamente appunto ho un ciclo industriale che mi garantisce determinati costi. E lo stesso sull'acqua. Non mi interessa che i cittadini siano educati praticamente, quindi non è soltanto la cassetta praticamente duale. Come voi siete impegnati qui appunto a fare i pannelli solari o le case appunto ecologiche, qui c'è da fare i piani regolatori in cui si inserisce la rete duale. L'acqua piovana va raccolta. E poi utilizzata per usi praticamente non alimentari, non potabili. No, è così, quando si parlava. Cioè, poi pensate che praticamente in Germania, avete visto forse alcuni servizi anche di report, praticamente i comuni, gli enti locali, appunto come che livelli praticamente di efficienza hanno determinato a livello appunto latino di piccole città, nella gestione appunto latino del ciclo idrico, nella gestione praticamente appunto dei rifiuti, nelle case praticamente ecocompatibili che appunto così risparmiano energia. Cioè ogni piccola comunità riesce, perché è stata appunto, ci sono stati fatti degli investimenti, a poter anche affrontare domani le crisi di mercato. Ma se invece dipendo dall'energia, dal mercato, se io dipendo appunto per i rifiuti, dal mercato, se io dipendo dall'acqua, dal mercato, chi è che mi tutela il minimo di sopravvivenza? Se non pago la bolletta dell'acqua, mi staccano l'acqua. Se non pago la bolletta dei rifiuti, mi arriva appunto Equitalia e mi fa il pignoramento. E allora, che interesse ha una cultura industriale, un'impresa industriale ad educarci al risparmio, ad un sistema di vita di tipo diverso? E qui ritorniamo agli enti locali e alle comunità. Apparentemente si dice appunto un attimo che quindi anche questo nuovo modello di riferimento rispetto all'acqua dovrebbe portare alla responsabilizzazione appunto un attimo dei nostri amministratori. I nostri amministratori purtroppo appunto un attimo sono quelli che siedono nei consigli di amministrazione di tutte le società partecipate, pubbliche e private, che hanno costruito tutti questi anni, che sono uno strumento indiretto di finanziamento dei partiti. Quindi anche lì o si rompe questo cerchio, o se no praticamente non si faranno mai i processi di fusione, i consorzi, cioè tra più comuni, una gestione collettiva, collegiale appunto attimo sul territorio, quindi in una logica appunto di consorzio. Di associazioni e di aggregazioni, probabilmente, come erano appunto latino inizialmente i nostri appunto latino comuni, che si associavano probabilmente appunto insieme. Nella provincia di Milano c'era il consorzio dei comuni della provincia di Milano che gestiva gli acquedotti, che gestiva probabilmente appunto anche i rifiuti. Oggi invece appunto non abbiamo queste grandi imprese. E dove si vuole andare? Si vuole andare a fare la grande multi-utility del nord, fusione A2A, IREM. Si fa il grande polo praticamente appunto latino industriale che deve mettere insieme Piemonte, Lombardia, Genova, che è una parte ovviamente forse appunto dell'Emilia, e praticamente poi dal Po, come si dire, tutto in giù, che si arrangi. Sapete che a Roma Demando sta praticamente svendendo con una parte appunto latino, aveva il 51% praticamente di Acea, la società che gestisce appunto latino a Roma il servizio idrico, adesso ne vuole mettere sul mercato l'altro 20%, ridurre la sua partecipazione al 20 o 30%. Chi prende appunto un attimo queste quote? Che prende appunto Suez, che prende Veolia, cioè i francesi che verranno a gestire l'acqua in sempre di più in Italia. E li prendono i grandi business praticamente edilizi, Caltagirone. Cioè chi poi dovrà fare i depuratori, chi poi dovrà fare la cementificazione praticamente appunto delle grandi opere di carattere industriale. Ecco, ho cercato così a flash appunto perché mi pare inutile andare negli approfondimenti di carattere tecnico sulla appunto le modalità di gestione, che cosa implica e cosa non implica la situazione praticamente appunto in Italia. Come movimenti appunto, siamo un po' impegnati a difendere in questo momento il referendum. Abbiamo lanciato una campagna il 2 giugno, la giornata prevista un po' della, cui si festeggia un po' la nostra Repubblica. A Roma ci sarà una manifestazione per ribadire ancora una volta questa mancanza di volontà politica da parte del governo ad attuare tutto questo orientamento. E guardate, non è un orientamento che così caratterizza, come al solito può dire, appunto, tipico soltanto degli italiani, della classe politica italiana, di non voler rispettare la volontà, di voler, così, in modo che partisco cambiare in continuazione il puntatino delle regole. È una tendenza probabilmente che c'è a livello europeo. Questa crisi appunto chiama ancora di più appunto, di responsabilità per i governi. Sapete che in Spagna, sapete appunto che in Grecia le prime cose che sono state messe sul mercato sono stati i servizi pubblici locali. Poi adesso stanno svendendo i porti, gli aeroporti, praticamente tutti i beni di carattere culturale appunto di che hanno. Certo che è un paradosso, cioè io ricordo appunto quando ero impegnato un po' nella cooperazione internazionale e allora si scopriva che appunto le grandi imprese italiane appunto europee andavano a comprarsi appunto un attimo le risorse e le materie prime in questi paesi. Oggi il processo si è completamente cambiato nell'arco appunto di circa 30 anni. Oggi sono i nostri paesi, l'Italia, il Portogallo, che sono potenza, possibilità, terreno di acquisto di questi beni da parte di altri paesi, e la Cina che controlla il nostro appunto debito sovrano. E una serie appunto di altri paesi che controlleranno probabilmente appunto le nostre risorse. E l'Europa appunto avendo al suo interno 8 su 10 imprese multinazionali che gestiscono i servizi idrici, avrà la responsabilità di controllare le risorse idriche nel mondo. Quindi le potenziali guerre del futuro dell'acqua sarà anche responsabilità dei nostri cittadini europei, come quelle del petrolio, sono responsabilità prevalentemente del popolo americano e del livello di vita che ha voluto mantenere alle spalle degli altri nel corso appunto dello scorso appunto attino secolo. Ecco, l'acqua chiama tutte queste considerazioni, quindi quando portiamo un bicchiere d'acqua appunto in bocca, quando apriamo il rubinetto, ecco, questo è il ciclo dell'acqua ci sta insegnando. E ce lo insegna anche una regione ricca d'acqua come la, diciamo così, appunto la Lombardia, dove appunto la qualità dell'acqua sta peggiorando e dove praticamente appunto alcuni processi stanno andando sempre più verso questa direzione. L'ultima parola appunto è quindi l'impegno qui sui territori. Quando eleggiamo un sindaco, quando eleggiamo un amministratore, forse una delle cose da chiedere, ma tu quale politica dell'acqua vuoi fare? Quale politica del territorio appunto un attimo vuoi fare? Come ti vuoi veramente appunto impegnare? Perché questi sono i beni che appartengono a ciascuno di noi, sono i beni che abbiamo avuto appunto un attimo non in proprietà, in gestione temporanea per garantire per le future generazioni. Ed è questa la responsabilità, oltre che quella sul piano dei consumi etici, lavarsi appunto un attimo sprecando meno acqua i denti, piuttosto che probabilmente utilizzare bene lo sciacquone. Cioè oggi non è soltanto un problema di responsabilità, come dire, etica, c'è un problema di responsabilità politica. Cioè di cittadinanza, cioè come cittadini dobbiamo ritornare ad essere cittadini, non utenti, non consumatori di un bene. E quindi non interessarci soltanto di chi ci offre quel bene al prezzo più basso praticamente possibile rispetto appunto al nostro portafoglio o praticamente al nostro interesse appunto di avere a disposizione quel bene al prezzo praticamente utilitaristico più o più basso. Questa è un po' la metafora che l'acqua oggi praticamente pone al centro, e se forse questa metafora dell'acqua si capisce, appunto, allora forse si possono introdurre anche i comportamenti di carattere diverso rispetto all'ambiente, rispetto praticamente alle regole del vivere, dello stare insieme in una città. Oggi le città attraverso l'acqua dovrebbero ricreare le prime modalità in cui ripristinare un rapporto, come dire, etico e responsabile verso la natura, quindi verso l'ambiente, ma verso gli altri cittadini del territorio. Perché quell'acqua, ripeto, non si può consumare perché non appartiene a noi. In questo senso, appunto, come tu accennavi, come voi avete fatto, non mi devo preoccupare soltanto di avere l'acqua 360 giorni appunto attimo l'anno, ma mi devo preoccupare appunto anche che tipo di prevenzione, che tipo di politica quell'amministrazione, quell'ente locale sta facendo. In un processo di globalizzazione come quello attuale, io credo che praticamente sempre di più è ai territori e al binomio cittadini, amministratori, puntatino che va ricondotta anche la rideterminazione o l'identificazione di nuovi modelli di sviluppo, di nuovi modelli appunto anche per costruire le regole dello stare insieme. E questo è un rapporto praticamente di fiducia, che credo anche la politica deve capire, non può essere più basata su programmi o su paradigmi che vengono praticamente calati dall'alto, centralizzati o che fanno parte di schemi ideologici. Ogni comunità, ogni realtà deve scoprire la sua via, il suo processo, attraverso il quale appunto un attimo con responsabilità, ed è qui il patto praticamente, il contratto di solidarietà, il patto che va fatto praticamente tra cittadini e politica, ecco, per definire una nuova polis, nuove regole appunto un attimo di convivenza a partire appunto dai nostri territori. E questa è un po' la sfida dell'acqua che credo oggi praticamente ci chiama in causa ciascuno di noi, e in questo senso appunto il primo appunto elemento è quello praticamente di contrastare questi processi di privatizzazione, difendere praticamente laddove c'è, come in questo caso mi pare che viene accennato anche da voi, siete riusciti qui nella provincia di Como a mantenere appunto ancora sotto il controllo di società totalmente pubbliche questa appunto un'attima possibilità, perché fino a quando appunto avete questa possibilità che l'acqua sia gestita da una società controllata dai comuni, ogni 3 anni potete almeno cambiare l'amministratore di quella città e di quel comune. Quando praticamente quella società è quotata in borsa, voi non avete nessuna possibilità di andare a Londra o a New York a farvi sentire come cittadini rispetto all'impresa multinazionale che ha acquisito il pacchetto azionario o la proprietà della vostra fonte praticamente appunto idrica. E quindi questo è importante praticamente, credo. Acqua vuol dire democrazia, acqua vuol dire partecipazione, acqua vuol dire praticamente che ciascuno di noi deve recuperare il senso civico dello stare insieme con gli altri. Grazie dottor Lembo e grazie anche a delle vostre considerazioni. Io ho preso un sacco di appunti, mi ci starebbe di parlare. La provincia di Como. Prego. La provincia di Como. No, adesso no, se prima non c'è qualche domanda. No, io volevo fare 2 domande. Una assolutamente tecnica, cioè lei ha descritto uno scenario attuale incredibile a fronte di un risultato referendario estremamente chiaro. Allora, vorrei capire dal punto di vista tecnico, se è possibile, dov'è il baco che ha permesso questa situazione. La seconda invece è una di carattere più generale, cioè i soldi per investire nel sistema idrico, i comuni innanzitutto li possono trovare facendo il loro mestiere, cioè iniziando a programmare così come dovrebbero iniziare a pianificare il territorio a lungo termine, no? Quindi i consumi di acqua dovrebbero essere regolati, non si capisce perché arriva il privato, ci fa pagare l'acqua in funzione dei consumi e le amministrazioni pubbliche non possono attivare una politica culturale di risparmio, di educazione, di cultura diversa, e su questo d'accordo, però credo che non basti. Quindi dove possono trovare i soldi comuni per poter investire e quindi paventare questo rischio della privatizzazione? E poi davvero la cosa che più mi interessa è capire dove la legislazione, cioè come è stato possibile che a pochi giorni dall'esito referendario sia potuto succedere che da destra e da sinistra siano state presentate delle proposte di legge indecenti. Cioè, dove sta il bacco dal punto di vista giuridico? Prima del punto di vista giuridico è un concetto praticamente di cultura. Cioè, i nostri politici sono praticamente ormai stati acculturati a una cultura del mercato. Mi è capitato, ne sono ricordo, 3-4 anni fa di fare un dibattito praticamente puntatino con Bersani, e di fronte all'approccio, ma tutto, qual è l'approccio del PD rispetto a puntatino al mercato? Dice, l'approccio del nostro partito appunto è quello di fissare le regole, però dice, se il mercato parla la politica ascolta. Abbiamo capito, ma noi siamo su un'altra lunghezza d'onda. Quindi destra e sinistra hanno sposato l'ideologia del libero mercato, perché come ho fatto prima la considerazione, ci sono dentro con le mani nella marmellata. Cioè pensate che dicevo che appunto in Italia appunto a partire da Giolitti per buona parte del Novecento tutta praticamente la gestione dei servizi pubblici locali era affidata agli acquedotti. Gli acquedotti erano comunali, e chi l'ha fatto praticamente gli acquedotti? Li hanno fatti i sindaci con le tasse, quindi con i cittadini. Ce li siamo costruiti noi gli acquedotti. Bene, chi praticamente ha obbligato la trasformazione dei consorzi appunto comunali, che erano enti di diritto pubblico senza scopo di lucro, quindi non c'era guadagno del 7%, in società per azioni. E sapete la differenza tra un consorzio e una società per azioni? Tra un ente di diritto pubblico e una società per azioni. La società per azioni ha per scopo il profitto. Se io appunto non porto i dividendi agli azionisti, questi mi mandano a casa. E se dopo due anni ho il bilancio a punto rosso, io porto lì in tribunale, per un SPA non può al terzo anno presentarsi un bilancio. C'è attualmente anche. Chi ha introdotto l'obbligo di trasformare praticamente i consorzi di acquedotti, i consorzi oggi di bonifica esistono ancora, ma i consorzi punto comunali puntatini a società per azioni? Quindi l'ha fatto da Lema e non l'ha fatto con un dibattito in Parlamento, l'ha fatto con una legge finanziaria. Tutti i grandi provvedimenti punto di cambiamento di orizzonte puntativo di politiche strategiche. Cioè la nostra sinistra li ha fatti attraverso piccoli articoli all'interno delle leggi finanziarie. Vi ho citato la legge Galli, che è stata l'unica legge oggetto di un dibattito parlamentare. Ma tutte le altre manovre purtroppo si sono state fatte così. Allora, cosa succede praticamente nel gioco politico? Che quando c'è praticamente la destra al governo, appunto la sinistra pensa di stare con i movimenti. La signora dice, io faccio, sono uno di quei 42 che ha fatto parte del comitato promotore referendario. Dove sono andato a puntatino a faticare, sono andato alla festa del PD a Trento a fare i dibattiti praticamente con Stella, collega, con Stella praticamente con gli altri. Tutti dopo, tutti dopo. Ma come sono saliti? Ma perché sono saliti dopo? Sai a Milano cosa succedeva? Ma noi avevamo appunto milioni di firme e non c'erano la possibilità di convalidarle, perché con, al governo, con appunto Natino Milano, la destra nessuno voleva firmare le nostre cose. Chi ha obbligato il PD a cambiare, a salire sul carro? I militanti dei circoli punto PD, che alla fine gli hanno detto appunto ai loro appunto latino candidati, tu non prendi più voti se praticamente non appoggi e non autentiche le firme praticamente referendarie. Ritorniamo al discorso dei cittadini, cittadini pensanti, che possono fare anche la determinazione del cambiamento appunto di carattere politico. Noi come cittadini abbiamo due possibilità, una appunto la legge di iniziativa popolare e l'altra sullo strumento referendario. Noi l'abbiamo giocata tutte e due. Dal 2007 è depositato in Parlamento una proposta di legge di iniziativa popolare. Ma sapete l'unico che si era candidato a fare il relatore chi era? Ciriboti. Allora ragazzi, questo è il livello della nostra classe politica rispetto a una legge di iniziativa popolare. Il PD ha presentato la sua, c'è ancora un dibattito probabilmente in corso, c'è un attimo la destra ha presentato la sua. Cioè, questo è purtroppo un problema di carattere culturale. Quando la cultura, l'ideologia hanno sposato il mercato, guardate, cioè, dico, tanto ci vado ancora comunque più pesante, ma anche la sinistra della sinistra. Io sono un altro con il comitato pugliese, uno di quelli che ha lavorato con Vendola a fare la ripubblicizzazione dell'acquedotto pugliese. Riccardo Pedrella, presidente del comitato italiano del contratto mondiale dell'acqua, gli è stato chiesto di andare a Bari a fare la ripubblicizzazione dell'acquedotto pugliese. Quando gli ha detto l'acquedotto pugliese al 98% di proprietà della regione Puglia deve essere trasformata da società per azioni in ente di diritto pubblico, l'hanno mandato a casa. Questo anche chi a sinistra della sinistra si fa il paladino praticamente contro delle grandi battaglie contro il mercato o spara a chi praticamente è, diciamo così, più avanzato. Perché? Perché anche in Puglia praticamente cosa ha detto il PD? Questo non fa parte del programma di governo. Tu la ripubblicizzazione del prodotto pugliese non la puoi fare, perché non è un accordo di programma. E questo perché destra come sinistra, vi ho detto, stanno dentro tutti i consigli di amministrazione. Uno dei costi della politica sono le società partecipate. Che sono le modalità con cui si ricollegano tutti i punti politici. Quindi è un problema di carattere culturale, ma di cultura politica, di una classe politica che ha sposato il mercato, che ha sposato il libero mercato e che quando il mercato, il libero mercato parla, al massimo gli fissa qualche paletto, ma non va contro. Quindi nessuno vuole tornare ad un'economia centralizzata, di tipo stalinista, però praticamente appunto almeno la salvaguardia. È inutile che parliamo di autonomia degli enti locali, è inutile che la Lega parla di federalismo quando poi praticamente le pratiche appunto sono l'opposto. Cioè, noi siamo andati l'altro giorno praticamente in consiglio regionale a dire appunto, guardate, in Lombardia bisogna sicuramente c'è una legge che vi dice che dovete rimettere in mano praticamente alle province, ma che senso ha aver fatto una provincia di Lodi, una provincia appunto di Monza? Lodi praticamente uno dei comuni della provincia di Milano, 500.000 abitanti, che ha mantenuto la gestione pubblica in house ed è andata fuori dalla provincia di Milano. Ma sapete cosa pagheranno l'acqua i cittadini di Lodi? 4 volte di più di quanto non la pagavano prima. Perché un conto è fare un bilancio su una popolazione di 500.000 utenti, un conto è di farla su una popolazione di 2 milioni di abitanti. E prima erano dentro un ambito territoriale con la provincia di Milano che aveva 1,5 milioni di abitanti, il Colone faceva 2 milioni. Quindi un conto è ripartire i costi su 2 milioni di utenti, un conto è ripartire su 500. Monza, altra struttura autonoma, cosa pagherà Monza praticamente l'acqua o i rifiuti o i trasporti locali? Anche lì 500-600 mila abitanti. Allora, ma che tipo di federalismo c'è in testa la Lega? Quello delle poltrone. Oggi l'abbiamo scoperto. Che cos'è appunto un certo tipo di... Quindi capite, dico, vi sto portando esempi da destra a sinistra per dire che purtroppo tutti hanno sposato questa logica praticamente appunto un attimo della poltrona, del mercato, dell'occupazione in una logica praticamente e di potere. Ed è per questo che praticamente alcuni beni come l'acqua non possono essere determinati, diciamo così, su questa dimensione di carattere amministrativo. Qual è la proposta che abbiamo fatto ad esempio in Consiglio regionale? Ma al massimo... Cioè, la dimensione di carattere amministrativo, appunto, latino-provinciale, è una dimensione troppo ristretta. Non è che l'acqua piove praticamente su Monza, sempre un attimo la stessa, piuttosto che praticamente appunto... L'acqua piove, se va bene, su un determinato bacino, che è montano, che è appunto un attimo di subvalle, che è praticamente intermedio. Ci sono dei bacini idrografici, praticamente, intorno ai quali l'acqua cade in una certa dimensione, appunto, e quantità. È quel bacino che va preso come ambito ottimale di gestione di quella risorsa. E indipendentemente se io sono monzese, appunto, di Lodi piuttosto che appunto di Milano, è quello il bacino. Tutta la Lombardia potrebbe essere divisa in tre grandi bacini: uno montano, uno appunto montano centrale e l'altro praticamente della Valpadana, cioè la bassa, appunto, latino. Cioè, Milano non è che c'ha l'acqua. Milano è al centro praticamente, appunto, latino della Lombardia, quindi l'acqua gli arriva per caduta, ma non è che ci abbiamo delle grandi sorgive puntatino sotto. Quindi abbiamo proposto praticamente appunto la dimensione appunto in consiglio regionale, perché non riflettete sui bacini? Perché non facciamo praticamente degli ambiti appunto un attimo di bacini idrogeografici? Su questo fate i consigli, il consiglio di bacino, composto da chi? Da tutti i comuni che hanno quella risorsa praticamente appunto in comune, o che vogliono gestire quella risorsa in comune, che siano i rifiuti o che sia praticamente appunto l'energia. Potrebbe fare anche sull'energia. Andate a vedere praticamente i processi di ripubblicizzazione e di gestione diretta di energia dei comuni della Germania. Cioè, tutta una serie di altri paesi in Europa stanno portando la gestione dei servizi pubblici locali, quelli più direttamente connessi ai cittadini, a una dimensione di territorio, di poterla appunto gestire, controllare e garantire appunto ai propri cittadini appunto dei servizi di qualità a prezzi più bassi, o di poterne rispondere appunto in termini politici della qualità del servizio e del prezzo. Da noi facciamo l'opposto. Da noi invitiamo le imprese multinazionali o privati, appunto gli diamo 40% del pacchetto per gestire l'acqua. Perché? Perché la nostra classe politica vuole fare l'azionista. Cioè, i sindaci di Roma volevano i soldi per fare con la cultura. Ma chi ha fatto la prima privatizzazione a Roma della CEA, introducendo il primo 30% sul mercato? E anche lì, Beltroni. Quindi... la prima dimensione è questa, non so se sono stato chiaro praticamente appunto un attimo di goccia. Quindi a destra come al centro come a sinistra in Parlamento non abbiamo delle forze disposte a farsi carico, forse per questo che anche alcuni movimenti stanno prendendo appunto un attimo piego, perché praticamente sono stanchi appunto un attimo come cittadini del fatto che praticamente non c'è la risposta politica alle istanze che praticamente dei cittadini garbatamente rispettando le regole della Costituzione hanno fatto. Abbiamo portato a casa 1,5 milioni di firme praticamente appunto anche per la legge di iniziativa popolare, altrettanto praticamente sul referendum, e siamo praticamente appunto un attimo ignorati e siamo completamente appunto trascurati. È chiaro che poi uno si indigna. La seconda sul discorso degli investimenti. Si parla praticamente di circa 60 miliardi praticamente che sono necessari in Italia per appunto attimo mettere a posto i nostri acquedotti, che non soltanto consumiamo tant'acqua, ma ne perdiamo tantissimo. Perché nessuno ha fatto più degli investimenti. Negli ultimi 20 anni non si sono fatti più gli investimenti. E più abbiamo dato la gestione in mano praticamente più liberi ai privati, più il privato ha meno interesse a fare gli investimenti. Perché tanto la proprietà della rete non è mia. Io la sfrutto più che posso e rinvio gli investimenti nella fase finale praticamente appunto del mio mandato. Prima porto a casa il massimo della remunerazione e dei soldi per pagare anche i soldi che ho avuto in prestito dalla banca. E poi se mi resta qualcosa lo faccio praticamente per migliorare un po' la qualità dell'acqua degli investimenti. Che cosa appunto vorrebbe significare appunto un discorso appunto anche di della possibilità appunto dei cittadini, dei comuni appunto di poter gestire appunto ecco l'acqua. Certo, ad esempio una delle cose contenute nel nostro testo di legge appunto di iniziativa popolare è che chi più consuma più paga. Da noi la tariffa dell'acqua è fatta in modo che invece ti stimolo a consumarne il più possibile. Tanto è vero che appunto c'è una prima fascia, esattamente appunto sulla quale tu paghi un tot ed è fisso, la paghi o non la paghi, praticamente sei costretto a prendere quel tot lo devi pagare sempre. Questo ad esempio aveva colpito anche mia madre, la quale dice ad esempio quando andavamo alla casa al mare, ma perché praticamente devo consumare meno acqua? Tanto l'ho già pagata per tutto l'anno, quel mese che sto là tengo l'acqua aperta praticamente e ne consumo quanto ne voglio. Tanto quel tot, anche se, cioè, non è che se consumo zero pago zero, no, non so se è chiaro il concetto. Cosa avevamo proposto noi come tariffa dell'acqua? Innanzitutto i primi 50 litri li garantiamo come diritto umano universale a tutti, li paga la fiscalità generale, come per la salute, non è che quando andiamo in ospedale paghiamo tutto quello che praticamente appunto facciamo. Se praticamente puntatino abbiamo bisogno di un intervento, pagheremo un ticket, paghiamo un tot praticamente sull'intervento che devi fare. I primi 50 litri garantiti puntatino, perché lo dice l'Organizzazione Mondiale della Sanità, essere un diritto, quindi non un bisogno, garantiti a tutti, in modo che anche le fasce sociali più povere possono prevedere. Poi le tariffe proporzionate in base a che cosa? Progressive, ma in base appunto un attimo appunto anche agli usi, differenziate, agricoltura, uso potabile, praticamente se è la piscina, appunto per che cosa, e praticamente proporzionale praticamente appunto anche a reddito. Cioè sapete che molto spesso praticamente, ad esempio, non so forse qui da voi un po' meno, ma a Milano abbiamo praticamente i contatori condominiali. Ci sono anche qua. Quindi praticamente tu non sai quanta acqua praticamente appunto consumi. E questo praticamente appunto che cosa porta? Che molto spesso nei condomini non c'è una fatturazione in base ai consumi, ma c'è una fatturazione in base appunto ai metri quadri dell'appartamento. Allora, mentre sulla TARSU, praticamente sui rifiuti, al limite riesci praticamente a dire tot e punto latino componenti della famiglia, ma perché non si applica questo sistema tariffario oltre alla rete duale anche nelle famiglie? Perché una pensionata deve pagare tanto quanto magari un altro, appunto, che sono quattro, che vanno quattro volte al bagno e si fanno quattro volte la doccia al giorno? Perché il punto latino viene ripartito? Fanno pasta per quattro. Non so se sono chiari questi concetti. Quindi ecco, certamente un sistema tariffario proporzionato, più di 400 litri è reato sprecare l'acqua, perché tu non ti puoi fare 40 docce praticamente appunto al giorno, oppure praticamente riempirti la vaschetta praticamente appunto un attimo, non so, per fare il bagno praticamente in continuazione. Ecco, nessuno ha introdotto in Italia questo tipo di sistema. E quindi praticamente appunto un attimo l'incentivo invece a consumarne di più, ne consumi meno pari. Non c'è la differenziazione tra l'uso appunto un attimo appunto potabile ed altri usi praticamente, non c'è la differenziazione quando tu hai la villetta praticamente con la tua piscina o praticamente la vasca appunto un attimo appunto che hai, e quindi non ti obbligano a dire utilizza l'acqua piovana per appunto un attimo riempire la tua villetta o la tua vaschetta praticamente o per il sistema appunto di tuo giardinaggio. Quindi ecco, questo è un primo livello. L'altro dovrebbe essere un patto dei cittadini. Io penso che praticamente almeno io sarei disposto a pagare anche l'acqua. A Milano la paghiamo 0,60 centesimi al metro cubo, vi rendete conto? Tu vai a comprare una bottiglietta d'acqua minerale, appunto un attimo la paghi 1,50 euro, io prendo un metro cubo d'acqua a meno di 1 euro, appunto un attimo. Allora, io sono disposto a pagare l'acqua anche 1 euro, appunto un attimo al metro cubo. Se tu mi garantisci, praticamente come amministratore, come dici la prevenzione, cioè se mi dici oggi la paghi 0,60, gli altri 40 centesimi perché faccio la politica di riduzione dei consumi, perché praticamente faccio la prevenzione, salvaguardo la falda acquifera, cioè mi dai un bilancio, praticamente una prospettiva. Io accetto, perché andrà tutto a beneficio di chi verrà dopo di me, dei miei nipoti, di tutti i miei figli, di chi appunto penserà, e i cittadini di Milano avranno sempre acqua di buona qualità. Quindi si può fare una politica coraggiosa con un patto di solidarietà, con un contratto stesso con i cittadini, a condizione che conoscono l'uso che ne fa delle risorse. Perché se poi servono per i tuoi viaggi, o per farci praticamente i badge, o per farci praticamente appunto un attimo degli show o le mostre o altre cose, questo praticamente non accetto appunto attimo che si paga. Quando noi abbiamo accettato l'aumento della tariffa dell'acqua a Milano con la Moratti, abbiamo detto dove vanno i soldi? Se per la remunerazione del consiglio di amministrazione? No. Se per investimenti sull'acqua? Sì. L'altro vuol dire che devi essere in grado di controllare come il comune, il bilancio comunale gestisce l'acqua. Ecco la partecipazione, ecco i cittadini che stanno dentro i consigli di amministrazione, che controllano veramente appunto le risorse. Ecco, insomma, sarebbe molto lungo il discorso anche sulla tariffa, ho cercato di darti appunto di qualcuno, diciamo così, appunto elementi. L'altro è praticamente quello che dobbiamo anche lì farci sentire. Perché la cassa depositi e prestiti, che sono i risparmi di noi cittadini italiani, devono andare a finanziare gli F2? Sapete cos'è il fondo di F2 Italia? È il primo fondo di investimenti in Italia che investe sui, che presta quei soldi ai comuni, praticamente alle imprese, per i nostri servizi pubblici locali. Come è finanziato il fondo di F2? È finanziato con i soldi della cassa, cioè della cassa depositi e prestiti. Dove prendi i soldi della cassa depositi e prestiti? Dalle nostre poste, sono i nostri risparmi. Allora tu prendi i soldi appunto dei risparmiatori italiani, anziché prestarli ai comuni per fare le opere pubbliche, le presti a una finanziaria. Perché? Perché se li presta al comune, la remunerazione del capitale è del 5-6%. Se li presta quel fondo di F2, è quello che prima vi ho detto, vi garantisce il 18-20% di remunerazione. Chi ha fatto questa scelta politica? Tremonti, il quale utilizza i soldi dei risparmiatori italiani per farne appunto una speculazione a guadagno di carattere finanziario, anziché prestarli ai comuni per gli acquedotti, per la depurazione e per le fonti. Hai capito? Di cui non è il problema dove i soldi ci sono o non ci sono, dove li vai a prendere? Se quei soldi praticamente, la cassa depositi e prestiti di prestarsi al comune di Como, può farsi praticamente tutti gli investimenti al 5% appunto attino che accessibili anche attraverso praticamente una partecipazione anche dei cittadini attraverso la tariffa, e le può fare, e che praticamente non accessa a quei soldi. In più c'è il patto di stabilità che hanno introdotto su tutta la gestione in house. Qui chi gestisce in house è penalizzato, chi praticamente non gestisce in house Sapete cosa hanno introdotto nella finanziaria? Che chi cede ai privati quota dei propri pacchetti azionari ha accesso ai finanziamenti pubblici. Finanziamenti vengono tolti a chi, cioè che è un assurdo, non è il momento in cui tu vorremmo tornare. Volevo spiegare un attimo d'arte per la svendita del sì, c'è tutta una serie di norme che spingono. No, è così, no, spingono a questa situazione. Vorremmo tornare la situazione della provincia di Como un attimo. Vorremmo appunto tornare sul territorio, sul problema, sulla questione provinciale. Allora, vabbè, ovviamente oggettivamente non era semplice da gestire la situazione, vista la confusione normativa a livello nazionale e regionale. In base alla legge regionale si è dovuto rivedere tutto, costituire nuovi organismi. Quello che abbiamo chiesto, come abbiamo cercato di ottenere in prima battuta come comitato, era la trasparenza, quindi che le riunioni di questi nuovi organismi fossero almeno pubbliche, permettessero l'accesso a comitati e cittadini di presentare memorie, di essere ascoltati. Quello che abbiamo ottenuto è che la conferenza dei sindaci, le assemblee sono pubbliche, nello statuto è stata approvata questa parte, mentre il consiglio di amministrazione dell'ufficio d'ambito, che perché adesso abbiamo tre organismi, l'amministrazione provinciale, l'ufficio d'ambito e poi i sindaci, quindi abbiamo questi tre organismi, la conferenza dei sindaci. Invece l'ufficio d'ambito, essendo un CDA di una società, quello che si è ottenuto è di sapere cosa avviene e di essere ascoltati nel momento in cui si presenta qualcosa, ovviamente non solo come comitato. Noi l'abbiamo chiesto in senso generale, i cittadini devono poter avere accesso. E nel frattempo però l'altro problema era che in base alla legge regionale deve partire questa nuova gestione a livello provinciale. L'assurdità che non lo vediamo subito nel momento che sia la provincia come limite, lo vediamo nel lago di Como, l'alto lago diviso in due, c'è cioè una cosa metà Lecco, metà Como, è ridicola, comunque questa è la situazione. In provincia di Como abbiamo una situazione in cui, che poi riguarda Como in modo particolare, l'attuale gestione non è completamente in mano al pubblico, tant'è vero che a Como abbiamo appunto la CSM Agam, che riguarda la captazione e distribuzione dell'acqua potabile per Como, Cronate, Cernobbio e Monza, mentre è partita anche questa da un consorzio totale appunto del comune, dei comuni, e in base alla legge è stato trasformato in SPA. Comunque il comune di Como deteneva il 51% del capitale comuni. Nel momento in cui si sono messi con l'Agam è sceso al 24,7%, che mi ricorda un po' quello che si diceva, e quindi abbiamo già comunque un privato nella provincia che gestisce un territorio. Depurazione dell'acqua, l'altra situazione misto pubblico-privato è sempre su Como, siamo un po' esperti di questa situazione. Con la Como Depur SPA, in cui gli industriali hanno la maggioranza, quasi un 56%, CSM 7,6% e poi ci sono i vari comuni. E in questo scenario comunque l'assemblea dei comuni, l'organismo precedente che era la sigla, era alto, no? Il 19 ottobre 2011 hanno deciso che, visto il referendum, che lo spirito del referendum, il risultato referendario, la volontà dei cittadini, quello che la gestione dell'acqua deve rimanere pubblica. Votano per la gestione degli in-house, gestione diretta, che non è pubblica, è proprio il massimo del pubblico, perché comunque è un SPA e quindi ha delle regole. Da SPA non può andare in perdita, non può tra l'altro neanche usufruire di aiuti economici da parte dello Stato, perché comunque ha delle regole di mercato da seguire, deve coprire tutti i costi, quindi con dei limiti, ma in ogni caso quello che si vede come comitato in modo positivo è che rimane in mano il controllo agli enti locali. In questo momento è il dato positivo che abbiamo in questo stato così confuso e difficile. Anche l'amministrazione provinciale, che è l'altro organismo, ha emesso la delibera in cui la gestione del servizio idrico dovrà rimanere in mano pubblica attraverso una gestione dell'in house. Sembrava tutto tranquillo, ma ovviamente così non è, bisogna seguire ogni singolo passo, perché passo successivo, noi pensavamo, abbiamo chiesto audizione all'ufficio d'ambito, pensando che fosse l'ufficio d'ambito, essendo l'organo tecnico, a dover stabilire più o meno come doveva partire questa in house, che comunque è da analizzare con calma, non è una situazione facile. Invece è partita l'amministrazione provinciale, che oltretutto adesso scadeva il mandato e non è stato rinnovato, perché siamo anche in questa situazione confusa di che cosa succede alle province, non lo sappiamo ancora, e cosa succede alla nostra amministrazione provinciale. E è andato in discussione un documento presentato da Galli, in cui non si parlava assolutamente di in-house, si parlava di conglomerata, si parlava di praticamente lasciare le attuali società che ci sono, per cui anche i privati, perché noi abbiamo dei privati, attraverso vari meccanismi. Quindi noi abbiamo visto che per quanto ci sia una delibera che richiama il referendum, il risultato referendario, e che il servizio idrico deve essere gestito totalmente dal pubblico, noi vedevamo invece in questo documento rimaneva aperto a dei privati, con in più il rischio che, non essendo una vera gestione diretta, poi ci fosse un ricorso da parte di qualche società a livello europeo e dovesse essere messa a gara. A questo punto gli enti locali ne perdevano il controllo. E quindi abbiamo fatto delle pressioni, abbiamo chiesto un'audizione, presentato emendamenti, e abbiamo avuto il grosso supporto di Tettamanti, dell'amministrazione provinciale, che effettivamente è stata la nostra voce all'interno, a parte quando abbiamo avuto l'audizione, però poi è stata la nostra voce, e abbiamo dovuto anche fare pareri legali in contrapposizione a quanto veniva emesso dall'ufficio legale dell'amministrazione provinciale. Alla fine siamo riusciti a far capire, a comprendere, che nell'in-house non può assolutamente, adesso al di là che lo spirito del referendum è la gestione pubblica, gli enti locali, quindi politicamente c'è un'esclusione del privato, ma anche dal punto di vista del diritto nell'in-house non può esserci privato, si rischiano i ricorsi. E quindi poi abbiamo scritto ai sindaci, mi sono tenuto in contatto anche con l'ufficio d'ambito, perché era anche l'altro organismo, l'organismo tecnico che aveva voce. E quindi alla fine, dopo un lavoro abbastanza pesante e complesso, ieri è passata in amministrazione, l'altro ieri, in amministrazione provinciale delle modifiche da noi richieste, cioè che venisse inserito, tolto, conglomerato, che conglomerata non è quello che veniva fatto, per cui già questo è un elemento di confusione. Ma venisse invece messo che questa società è una società in house, poi denominata società d'ambito, non era quello il problema, era la forma della società, e che si deve procedere alla privatizzazione delle società. Pubblicizzazione delle società private. Ho fatto una sintesi che era troppo sintesi. Sono passati questi due concetti fondamentali, come anche è stato inserito che la situazione al momento, che è immediatamente come andiamo a gestire, quindi teniamo di buono quello che c'è di buono all'interno delle varie società che gestiscono, comunque è una situazione di transizione, bisogna arrivare poi entro 3 anni alla forma definitiva di un'unica società in house che andrà a gestire, che tra l'altro nell'ambito della provincia di Como noi abbiamo, a parte queste due società, abbiamo altre 24 società in house che gestiscono e tantissime, quasi un centinaio di gestione in economia, quindi è una situazione estremamente frammentata, e ovviamente qui metterci mano non è una cosa veloce, per cui prevedere un periodo di transitorio non c'è nulla di particolare, solo che in un primo momento non era previsto, non era messo che era un periodo transitorio, rimaneva questa situazione fissa, e quindi non avevamo il rispetto di una gestione in house comunque. Sappiamo che però non è finita, perché abbiamo visto che dopo il referendum ogni piccolo passaggio dobbiamo stare attenti, dobbiamo essere solleciti e dobbiamo seguire attentamente tutto quanto avviene. Però come dire, sono state messe delle fondamenta che hanno senso, il documento ha ancora dei problemi, tra l'altro l'ufficio d'ambito poi farà un proprio lavoro, perché poi c'è anche il problema della tariffa, se ne rimangono al momento delle gestioni diversificate, fare la tariffa unica non ha senso, quindi c'è tutto un lavoro ancora complesso da fare, in cui noi sicuramente lo seguiremo attentamente come abbiamo fatto finora, però almeno siamo riusciti a mettere queste fondamenta. Speriamo che poi, tra l'altro, ci siano anche delle modifiche a livello nazionale o regionale, si riesca quindi a respirare anche per chi sta lavorando all'interno di questi organismi in buona fede, in cui crede nella gestione pubblica, perché c'è anche chi ci crede, ci sta lavorando molto. Il lavoro non è semplice, comunque alla fine queste fondamenta le abbiamo messe. Noi abbiamo detto che si procede con microfono aperto. Però, e quindi, se ci sono opinioni, avanti. Qualche opinione ce l'ho io, visto che sia pur brevissimamente. La prima, mi perdono il dottor Lembo, ma se da destra fino a sinistra in tutte le sue segmentazioni, no? Allora aiuto mamma, non ce la capiamo più, no? Cioè, voglio dire, eccetera, eccetera. Ma io credo invece in questa operazione di grande importanza, la partecipazione dei cittadini. Oggi pomeriggio, io ero a Cantù, va bene? In un incontro con il nostro qui a Dirlo, parlavamo dell'aria, dell'inquinamento, eccetera, e nel rapporto dell'aria il 19% è ossigeno, ma in generale è ossigeno, ma in un quartiere dove non c'è un albero, dove c'è un grande traffico, no? Il 19% di ossigeno non c'è. E allora il diritto, no, inalienabile del cittadino al suo 19% di ossigeno, no? Sì, cosa allora del sindaco? No, del ruolo degli enti locali, cioè, che è da questo punto di vista essenziale e fondamentale. Ora, Eddie diceva una cosa, vediamo un po' se perché io ho preso un sacco di appunti, sempre da parlare fino a domani mattina, però diceva, c'è una situazione transitoria molto, in questa situazione transitoria, ora quando si parla di privato o non privato, è anche il sindaco, il singolo cittadino considerato un privato? Sì. Sto pensando alla discarica di Peccioli, un comune toscano che è un esempio italiano, addirittura potrei dire europeo, no? Sulla raccolta dei rifiuti che procede per frammentazione molecolare, va bene? E produce gas, eccetera, eccetera, con una straordinaria partecipazione dei cittadini. Gli azionisti di quella struttura là sono i cittadini. È pensabile una roba di questo genere? Io la pongo come domanda, no? Voglio dire, se in questa fase transitoria i cittadini comaschi potessero, no, partecipare a questa roba. No, perché no. A questo punto il cittadino, stiamo parlando dell'in-house, però c'è il problema, la scelta unica che abbiamo in questo momento. Il cittadino è un privato e quindi è un... Se il problema è troppo... dove prendono i soldi i comuni, se ci fosse il cittadino, una forma di partecipazione, è una domanda che pongo, senza la pretesa di... E poi la questione dei costi dell'acqua. Oggi i costi dell'acqua stanno dentro nelle pieghe dei bilanci comunali e li paghiamo tutti noi attraverso le forme di tassazione. È chiaro che qualunque pubblicizzazione dell'acqua, eccetera, eccetera, le tariffe schizzeranno verso l'alto. È inevitabile. Sapendo che c'è tutto un processo lunghissimo quando si parlava di sistema duale, fino a che non si arriva al sistema duale, cioè la doppia conduttura, e cioè eccetera, eccetera, per il recupero dell'acqua piovana e via discorrendo, l'acqua continueremo a buttarla nel gabinetto e via discorrendo. C'è tutto un percorso molto complesso, no? Su questa, il rischio di tagliare a fette grosse è molto grosso, no? E io sono francamente, lo dico da cittadino per carità, preoccupato di enunciare grandi principi, no? Che poi non trovano la strada. Ma la, per quanto riguarda i finanziamenti, c'è anche da dire una cosa, che alcune tariffe sono a livelli veramente ridicoli, quasi inesistenti, per un problema che, non essendo stato ancora approvato il piano d'ambito in provincia di Como, è stato approvato di recente, rimaneva tutto, che da un altro punto di vista non ci ha salvaguardato dalla numerazione del 7%, che non c'è stato, non è stato fatto, in quanto non, senza il piano d'ambito non poteva essere applicata la tariffa normalizzata, non avevamo questa remunerazione. Quando è stato fatto il piano d'ambito mancava poco al referendum e le società hanno deciso di non metterlo, rischiando poi di doverlo togliere subito. Quindi in provincia di Como questa ce la siamo cavata. Cioè non togli, alcune tariffe sono rimaste veramente a livelli 0,15 centesimi al metro cubo. Se questa tariffa mi aumenta anche di 5 volte, scusate, non è questa la preoccupazione, penso. E poi però con l'approvazione del piano d'ambito si sono liberati i finanziamenti, perché il problema era che ci sono dei fondi che erano fermi perché non era approvato il piano d'ambito. È stato chiesto ai comuni, di ogni comune, di dire quali erano i lavori di cui ha bisogno e quanto chiedeva. È stato fatto una specie di bando adesso che si sono liberati i capitali, per cui non è un discorso così automatico. Anche se e poi appunto si sì, può schizzare, ma mi può schizzare per chi consuma tanto, non per chi consuma poco. Ci sono tanti modi per ovviare a questo. La partecipazione dei cittadini, cioè, a parte entrare direttamente come titolare, comunque è già titolare attraverso il suo sindaco dal punto di vista della, io sono cittadino di questo comune, se il comune è titolare che mi gestisce l'acqua, io la sto gestendo. Da un punto di vista dell'azionariato, diciamo, non ne ho necessità e contribuisco già pagando la mia tariffa economicamente. Da un punto di vista giuridico, se faccio un in-house, se mi entra un cittadino, è un privato, mi va bene. Però il mio era proprio da un punto di vista politico, al di là dell'in-house. Io sono già proprietario, perché lo devo diventare come azionista? Perché dobbiamo sempre ridurre tutto che deve essere una società nel diritto, diritto privato e dell'economia e non invece quello che è il mio diritto come cittadino? Io mi sento, non mi sento più proprietario adesso, perché ho dentro tra il CSA e Agam, e come detto non siamo mai stati proprietari, tra l'altro. È nato da un'esigenza, bisogna anche dire, del territorio italiano, del depuratore, degli stessi industriali che, siccome inquinavano molto, si erano resi conto di questa cosa, loro stessi vivevano qua, hanno richiesto al comune di Como, beh, mettiamoci insieme e facciamo il depuratore. No? Como Depura è nato più o meno in questo modo storicamente. E io non mi sento, invece ci sono dei comuni in cui i cittadini sono orgogliosi delle loro società in house, perché non avevano altra scelta con le leggi attuali, che funzionano bene e se ne sentono proprietari. Quindi già, se lo è il mio comune lo sono io, quindi dal punto di vista politico non c'è la necessità, neanche da quella dei fondi. E dal punto di vista giuridico non è più un in-house e va bene. Però noi siamo in una fase dove tutto questo non c'è, nel senso che, per esempio, io sono un sostenitore della tassa di scopo. Nessuno si quella, sa, la, quella c'è. Però, però dico, sono due concetti, cioè una società, uno Stato si fonda praticamente appunto, ecco, su delle risorse che ha in comune e su delle politiche che ha in comune. Cioè, l'approccio, diciamo così, come il movimento portiamo avanti è questo: io pago di più anche la tariffa, ma la tariffa non può pagare tutti i costi necessari per salvaguardare le risorse. Quindi gli investimenti e la prevenzione è a carico della fiscalità generale. Cioè io non posso pagare tutto, questo è il punto. E dopodiché praticamente il cittadino concorre. È accettabile, cioè, o no? Perché se vogliamo, non so, che sia pubblica, che sia privata, adesso questa è una questione, diciamo, di principio su cui uno decide, va a votare e non per una cosa o per l'altra, no? E mi pare che gli italiani si siano espressi chiaramente su questo punto. Ma alla fine rimane un bene da gestire con un concetto pubblico, però con dei, diciamo, adottando una gestione che sia economica, che sia competitiva, che sia, che dia un servizio buono, che possibilmente migliore di quello privato se scegliamo un pubblico. Tutti questi costi devono essere pagati, pagando diciamo, la bolletta dell'acqua, la tariffa dell'acqua, o deve essere pagati dalla comunità in generale, cioè vanno a tassazione. E questo mi pare che se andiamo sul pubblico, la scelta comunque dovrebbe essere di una gestione fatta con criteri privatistici. È corretto, stiamo facendo un po' di confusione sui dati di riferimento. Allora, il classico sillogismo disturbante in cui il privato ha una qualità della gestione migliore del pubblico surroga un concetto differente che ovviamente identifica e tende ad identificare la tariffa con un costo, e questo è il primo errore. Il secondo errore è quello di ritenere appunto che l'approccio qualitativo, che in definitiva si chiama scelta politica, debba presumere dalla qualità della gestione. Allora, io faccio l'ingegnere e ragiono sui numeri e sostengo ovviamente per mio interesse fondamentale personale che l'informazione non è tale se non è quantitativa. Allora, io prima ho bisogno di sapere quali sono i miei obiettivi di gestione, e intendo numerici, al di là degli obiettivi politici. Questi, qualunque essi siano, poi devono essere declinati in fattori di gestione. Allora, io ho bisogno di sapere quanto valgono gli investimenti per una rete di distribuzione di acqua potabile. Ho bisogno di sapere qual è il mio obiettivo di gestione, indipendentemente dal fatto che la gestione venga affidata al pubblico o al privato. Perché abbiamo il classico sillogismo totalmente italiano per cui il pubblico gestisce male e il privato gestisce bene. Ora, a parte il comune toscano, questo è la classica, il classico approccio di tagliare tutto col coltello, perché non è vero, e ci sono situazioni in cui, lo sappiamo benissimo, il privato gestisce coi piedi e il pubblico è in grado di fare il suo lavoro. Quindi questa dicotomia radicale che ci spacca sempre la testa è il primo errore sistematico da levare di torno. Il secondo è che, come al solito, siccome noi arriviamo sempre ultimi, intendo dire noi che siamo il nord d'Italia ma siamo eternamente i terroni d'Europa, arriviamo per ultimi. Allora a me piacerebbe sapere, in termini di benchmark di gestione europeo, cosa accidente si fa in Svezia. Non perché in Svezia sia il mio paradigma culturale di riferimento, ma ad occhio e croce hanno una capacità di gestire il bene pubblico infinitamente migliore dal nostro italiano. Allora, avere questi benchmark di riferimento mi devono dire che se io spendo, dico una cifra qualunque, 1000 euro a chilometro di manutenzione della mia rete, eccetera eccetera, in Svezia ne spendono la metà al doppio, già qui riesco a capire, pubblico o privato che sia, quali debbano essere i parametri che la politica applica alla capacità di gestione della mia azienda, che sia in house, che sia privata, che sia pubblica. Altrimenti parliamo sempre per paradigmi culturali dove mettiamo prima le idee nelle caselle e poi andiamo a vedere cosa si può fare. E questo è un approccio metodologicamente assolutamente errato nei principi fondamentali. L'altro, ed è una domanda tecnica, è: come si fa ad evitare le gare europee? Questo non l'ho ben capito. No. Quindi, la prima è una questione gestionale, e cioè che cosa cacchio mi costa una gestione di una rete di distribuzione, chiamiamola moderna, che non abbiamo solo in Italia, esiste in tutto il mondo. Quindi ci saranno pure dei parametri gestionali, econometrici, ingegneristici di sistema produttivo che mi dice: un sistema di gestione, un acquedotto, chiamiamolo come vogliamo, deve costare tot. Ci sono ovviamente per le reti elettriche, ci sono per le reti ferroviarie, ci sono per tutti i sistemi di distribuzione sul territorio questi parametri di riferimento. E solo se io riesco a discernere la realtà che ho di fronte in base ai criteri gestionali sono capace di dire: bene, io affido a te, a me, indifferentemente che sia pubblico o privato, non fa nessuna differenza. Perché non fa nessuna differenza? Perché presumo di avere una politica che sia in grado di mettere i paletti, che deve avere più di 3 neuroni che gli girano nel cervello, queste ore, deve mettere i paletti e poi deve applicare quel vocabolo che è scomparso ovviamente dal nostro modo di dire, che non ho sentito neanche qui questa sera, deve applicare a quella santa, solida e onnipresente capacità di controllo che è il primo concetto che ha evaporato negli ultimi 50 anni di democrazia occidentale. In assenza di controllo, che sia pubblico o privato, la mia gestione sarà sempre di tipo collaborativo. Non so che cosa sta succedendo. Dopodiché posso andare a intercettare gli investimenti, i redditi, il 7%, tutto quello che voglio, ma sto continuamente sparando al buio. Non so che cosa sto facendo, perché non applico un criterio di gestione, non applico una capacità di controllo. Allora, c'è qualcuno che direttiva europea, ambito territoriale omogeneo, legislazione nazionale, c'è qualcuno che queste cose le ha tirate fuori o stiamo parlando ancora a livello medievale sul nulla? Altro. Posso aggiungere un piccolo contributo alla discussione? E stamattina, parlando con Michele, facevo l'esempio che forse molti anni fa, subito nel dopoguerra, si era trovato una soluzione a questo dilemma. Ed è stata l'istituzione dell'IRI, l'Istituto della Ricostruzione Italiana, dove il controllo era pubblico e la partecipazione prevalenza pubblico, ma c'era anche l'iniziativa privata che concorreva e che portava le sue conoscenze, il suo entusiasmo e la sua capacità anche amministrativa, e abbiamo ricostruito l'Italia. Adesso mi pare che tutti questi concetti si siano, come diceva l'amico qui, un po' evaporati, ecco, insieme a tanti altri. Comunque, partendo dal discorso più pratico, come si evita la gara? Quindi fatto la scelta dell'in-house, i parametri principali sono due: deve essere totalmente pubblica la proprietà, è di costruzione della giurisprudenza europea, non è la norma, sono delle sentenze fatte su casi italiani, tra l'altro, spesso no, perché sentenza non è il caso che viene. Scusa, ma io devo mettere a gara la gestione? No, è una scelta politica, ritornando al concetto. L'Unione Europea dice l'acqua è un bene demaniale che appartiene in proprietà degli stati. Ogni stato può stabilire se l'acqua è una merce e allora mette sul mercato, o se l'acqua non è una merce e allora è un monopolio naturale di quel paese. È una scelta politica, quindi a monte ci sono sempre dei principi. Da noi è un diritto al lavoro, all'istruzione. Ma questa è una scelta dello Stato nazionale. Questa è una scelta che compete agli Stati nazionali. Quindi non è devoluta alla Non politica. È devoluta. Tanto vero che praticamente in Europa esistono paesi come la Germania che ha detto l'acqua non sta sul mercato. Come ha detto non ci stanno i rifiuti, come ha detto non ci sta l'energia elettrica, prima vi ho detto che i Landi e i tedeschi gestiscono praticamente l'acqua, l'hanno decentrata al territorio, sono scelte politiche. Mentre l'Unione Europea ha detto l'acqua esatto. Sul mercato. Bravo. Okay. Oh. E questo l'ha fatto praticamente nei momenti in cui, come ho detto prima, una classe politica italiana ha scelto che l'acqua da un bene che era gestito in forma consortile, cioè attraverso consorzi di comuni, che hanno bene demaniale in custodia, hanno praticamente trasformato questi soggetti in praticamente società per azioni. Quando tu hai scelto il soggetto società per azioni, la società di diritto privato a carattere economico che deve fare profitto, è chiaro che se affidi l'acqua a una società per azioni vuol dire che hai fatto la scelta che l'acqua sta sul mercato, che quindi è soggetto ai principi della concorrenza. E questa è l'Unione Europea che poi ha richiamato l'Italia a dire ma allora praticamente che cosa ne puoi fare di questa cosa qua? E questo è l'eterno problema in Italia, che non ha mai appunto definito se l'acqua è a tutti gli effetti un bene da stare sul mercato, come aveva fatto attraverso dei provvedimenti, l'articolo 35 di legge finanziaria e successivamente. Qual è stata la caratteristica del governo Berlusconi per cui poi noi siamo stati obbligati a fare appunto il referendum? A dire, ha esplicitato che l'acqua è un servizio di interesse generale a valenza economica. Questo l'ha messo in una legge, cosa che prima gli altri governi non avevano fatto. Da quel momento la gara era uno strumento obbligatorio e tutti entro il 31 dicembre 2011 avrebbero dovuto mettere a gara i servizi pubblici locali, acqua compresa, se non avessimo fatto il referendum che diceva che acqua, servizi pubblici locali, intesi rifiuti e trasporti, questi tre dovevano essere fuori. Tieni conto che c'erano le farmacie, c'è una serie di altre cose, no, appunto, che sono state oggetto anche di provvedimenti che sono stati poi riportati all'interno appunto un attimo di liberalizzazione, poi il processo di privatizzazione è un'altra cosa. Quindi qui c'è una scelta di carattere politico. Dopodiché la seconda cosa che bisogna appunto un attimo avere chiaro, che l'acqua non è un servizio a rete, non è come l'elettricità, non è come il gas. perché le caratteristiche morfologiche, appunto un attimo di captazione, appunto di qualità dell'acqua, non sono identiche a Svezia come praticamente in Italia, non sono identiche in Pianura Padana come praticamente in Puglia. La Puglia non prende l'acqua, la deve comprare da altre regioni, tranne non fare i dissalatori, appunto, dissalare l'acqua del mare. Allora capisci che è difficile dire quanto costa appunto un metro cubo d'acqua. Cosa ti costa prendere l'acqua dalla Campania, dalla Basilicata, con tutti i, come dire, i dislivelli, e portarla praticamente in Puglia? Quindi non ci può essere un costo per, come dire, chilometro, no, di, come dire, standard, no? Appunto, perché questo è stato l'altro elemento che praticamente un po' ha introdotto la legge Galli, no? L'acqua è un servizio appunto un attimo industriale, un servizio che va gestito a rete. Dicendo, il buon Dio manda l'acqua sul pianeta Terra, l'acqua di tutti, ma quando comincia a mettere i tubi, allora appunto deve essere una gestione, appunto, ecco, che introduce un concetto di carattere industriale e la si è equiparata praticamente al concetto di gestione di servizio un attimo di rete. E questo è stato l'altro paradosso in questo momento in Italia. Nel momento in cui praticamente il governo, questa è appunto anche la scelta che ha fatto questo governo appunto Antino Monti, ha tolto l'acqua dal Covini, cioè dal Comitato appunto per la Vigilanza, che è uno degli organi di autorità di controllo che tu devi un attimo richiamare, e ha detto, pongo praticamente la gestione dell'acqua sotto l'autorità del gas e dell'elettricità, vuol dire che a tutti gli effetti, questa è un'altra contraddizione, l'acqua è un servizio a rete, come dici tu, che è l'opposto praticamente di quello che i cittadini ti hanno chiesto, no? Mi hanno detto che l'acqua non è una merce, ma sta sul mercato. Quindi qui c'è questa ibridità in cui gioca la politica, tutti ti dicono che l'acqua è un bene comune, va nello statuto appunto della regione Lombardia, dice che l'acqua è un bene comune, che è un diritto umano, che deve essere garantito in termini di sussidiarietà, universalità a tutti i cittadini, e poi ti dice che l'obbligo però è la gara. Allora come può essere che la gara, il mercato garantisca un diritto? Una società per l'azione del mercato non può garantire dei diritti. Ma la interrompo se no ci sbandiamo. Allora, l'intero ciclo dell'acqua ad oggi, dal punto di vista giuridico, è diviso o no in uno schema di approvvigionamento, trattamento, distribuzione e fratturazione? È diviso? Sì, sì. Allora, torniamo al punto di prima. In questo equilibrio in cui l'acquedotto pugliese ovviamente è un fattore di costo, che fa parte però dell'approvvigionamento, è lo stesso criterio che in realtà è stato seguito per l'energia elettrica in Italia, dove la produzione è andata da una parte, la rete come backbone è andata dall'altra, ma questo è quello che noi riteniamo che praticamente invece non va applicato all'acqua, perché il ciclo naturale dell'acqua del pianeta Terra non è un ciclo diviso in captazione. Allora, se io prendo il modello di pianeta Terra non posso fare, questa è una scelta che ha fatto l'uomo praticamente per che cosa? E che sta facendo, l'Unione Europea cosa sta portando a questo? A dire ogni fase del ciclo dell'acqua ha un costo, bisogna quantificare. Noi siamo tutti a questo principio, questo vuol dire versificare un bene della natura, scusa. No, è la green economy. Infatti, un altro conto invece, quello che adesso andrà fatto, cioè un piano industriale, fare un rilevamento sulla provincia di Como, vedere quali problemi ci sono, dove gli acquedotti hanno poche perdite, perché non dappertutto ci sono tante perdite in provincia di Como, come in alcuni punti invece sono tanti, quindi fare un rilevamento, rendersi conto della situazione, vedere gli investimenti da fare, a parte che già adesso avendo fatto questa specie di bando in cui si chiedeva ai vari comuni tu quali problemi hai col servizio idrico, dimmelo, e vediamo chi dà i fondi che si sono liberati, perché c'erano questi fondi fermi. A questo punto nel piano industriale, una volta che si è fatto il rilevamento, si fanno i preventivi e si vede, si può anche stabilire la tariffa. Non è che non vanno fatti i conti, bisogna per forza prendere ad esempio, perché io al comune di Como ha un costo sull'acqua perché la prende dal lago, la depura e la rimanda in circolo. Brunate gli costa molto di più perché se la deve portare su, perché Brunate è senza acqua, quindi non abbiamo la tariffa, l'ufficio d'ambito la decide. Sarà l'ufficio d'ambito. Adesso sì, praticamente c'è. Cioè, in provincia di Como hanno già. Cioè, prima. La, attualmente la, sì. Prima era per l'assemblea del lato, per l'interno dei cittadini. Questo però erano bloccate le tariffe. Sì, ma proprio. Se tu mi aumenti la tariffa qui a Como, quando vado a leggerti, voglio sapere perché mi ha aumentato la tariffa da un qualcosa praticamente a 5, mi dovevi spiegare. Quando adesso praticamente l'ufficio d'ambito, cioè puntatino, l'ufficio d'ambito provinciale non è che è eletto dai cittadini di Como. No? No, a cinque consiglieri di amministrazione, cioè, quindi passi la competenza praticamente passi la competenza dei tecnocrati. Tu vai ad un ufficio d'ambito molto spesso. Ufficio d'ambito ha competenza su tutte le tariffe di tutti i singoli ambiti regionali. No, di tutta la provincia di Como, ogni ufficio d'ambito dalla sua provincia. Ok, ma c'è un'unica tariffa per tutta la provincia? Si, si andrà a finire a quello. Però qua una volta che però il sistema è a regime, non so. Ok. E l'ufficio d'ambito, mi dicevi, da chi è nominato? Sono il consiglio di amministrazione è composto da 5 membri, uno è stato nominato dall'amministrazione provinciale e l'altro sono stati eletti dall'assemblea dei sindaci. Uno da 0 a 10.000 abitanti, eccetera. Sì, quindi... okay. Cioè, poi c'è anche... Ma è un sistema di democrazia diretta. Per le cose che conosco io di questa materia, la legge Galli è del 96 o 93? 96. 96. E diceva una cosa molto semplice. Gli ATO, che cioè gli ambiti ottimali, vanno presi sul territorio idrografico. Se entro 6 mesi, legge Galli, nostro compaesano, va bene? Se entro 6 mesi non si decide questa cosa, non si decide l'ambito idrografico, siccome era uno determinato a procedere, entro 6 mesi, dopo il 6° mese, l'ambito lato diventa la provincia. E così è stato. Dopodiché noi ci troviamo col bacino dell'Adda, dove interferiscono una grande quantità di province con tutto il casino che ne viene fuori. Ma nella provincia di Como, per quello che conosco io, ci sono 28 aziende distributrici dell'acqua, 28, va bene? C'era uno schema, non lo ricordo benissimo, con tariffe differenziate comune per comune, sia per fasce che per metro cubo, va bene? Questo è il dato dal quale si parte. Io credo che da questa situazione, a mano a mano, lavorandoci, sono un centinaio, tra una cosa e l'altra. Poi la legge si è modificata perché adesso abbiamo avuto la legge statale che ha demandato alle regioni di decidere come sarà la gestione. La regione Lombardia ha deciso che è la provincia, perché la legge Galli è passata tant'acqua sotto i ponti. Sono passati 15 anni. Esistono anche gli anni che sono passati tutta Lombardia. Infatti, quindi cosa è complessa, certo. È molto complessa e abbiamo tantissime gestioni, perché appunto se andiamo a vedere tutto il processo, le gestioni in provincia di Como sono un centinaio. Altro sono le società in house, che sono 24 più le 2 società di Como che non sono in house e via dicendo. Questo è legato ancora al concetto di sovranità di bene demaniale. Se bene del mio comune, perché lo devo gestire in conseguenza, che va contro la logica appunto industriale di dire appunto. Cioè, c'è una serie di retaggi di cose che ci portiamo nel puntatino di questa. Sembra tante specie di dire che adesso c'è il piano industriale. Dopodiché tutta questa partita deve uscire, diciamo così, dal Medioevo per arrivare ad una situazione civile, dove si intrecciano le diverse cose, in modo particolare il ruolo dei comuni, i cosiddetti piani regolatori. Si ritorna a questa questione dei piani regolatori per tutto ciò che comporta l'edilizia e quindi l'impiantistica e via discorrendo, compreso le fognature, gli scarichi e via i depuratori. Sì. Io credo che su questa materia avremo ancora bisogno di tornarci diverse volte, no? Magari con una platea più ricca, no? Perché le cose che abbiamo sentito questa sera sono sicuramente che meritavano una platea più ampia. Se non ci sono altre osservazioni, possiamo considerare chiusa la serata. Il silenzio. Taccia consente.